passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non punge lei tranquilla non sarà. Pomate a volontà e spray senza pietà, questo è il rimedio per l'incendio. Mentre la rivolta impazza in tutta Italia, e noi rinnoviamo, caro Parenzo, l'invito alle forze dell'ordine, al governo, di intervenire in maniera, diciamolo come direbbe il direttore del Sole 24 Ore, fate presto a intervenire, fate in maniera presto, drastica, subito, immediatamente, sgomberare i blocchi, polizia, guardia di finanza, esercito, e anche i forestali, che non fanno niente, no, poveracci, no, cioè, in alcune parti d'Italia fanno, in altre meno. Mobilitatevi, diciamo, subito a smantellare i blocchi. Bene, su questo vedo che siamo d'accordo. Mentre in Italia impazza, allora mi preoccupo, la rivolta, c'è anche una discussione intorno, sì, alle frasi, come sapete, del sottosegretario Martone, ieri Martone, ospite qui alla Zanzara. Sentiamo, una brava che, persona, Martone, sentiamo quello che ci ha detto ieri in grande esclusiva qui alle 20:15. Tutta franchezza, si attaccano a me, non quello che ho detto, e non le idee, non parlano dell'età media di laurea, che in Italia è troppo alta rispetto agli altri paesi europei, significa che tutto sommato ho toccato un nervo scoperto e che quello che ho detto era una cosa giusta. La parola sfigato, come la cambierebbe il signor Martone? Forse ho sbagliato il modo, ma per il resto sono convinto di tutto questo. La parola. La parola sfigato, come la cambierebbe? Se la potesse cambiare, che parola utilizzerebbe, per esempio? Sbrigatevi a laurearvi. Che è un po' come il fate presto che invocavi. Beh, che invocavi prima. Sì, però è più debole. Feltri, Vittorio Feltri. Ah, che ha detto il direttorissimo? Laurea a 28 anni, sei uno sfigato eppure un cretino. Chi si laurea a 28 anni facendo soltanto lo studente è sicuramente uno sfigato o un cretino. È esattamente quello che voleva dire in realtà Martone. Il vice ministro. Non è che voleva dire chi lavora e studia e si laurea a 28 anni è un cretino. Ha detto chi arriva fino a 28 anni stando a casa prendendosela comoda è un cretino. E sta lì a pascolare. La signora Concia, Partito Democratico: Martone è un fighetto raccomandato lì per abbassare la media del governo. Un fighetto raccomandato come Martone, che diciamo doveva abbassare l'età media del governo perché è stato scelto, è per stato ragioni, però di, veramente un ragazzo prodigio ai suoi tempi, perché ha preso una laurea tanti, molto presto, ha insegnato tanti, molto presto, ecco, però probabilmente se non si chiamava Martone non veniva, Martone non veniva scelto. È bene che diciamo abbia un po' di misura. Qualcosa di Lega. Maroni ieri sera a Ballarò. Maroni di sera a Ballarò, a un certo punto compare un sondaggio, non so se l'avete visto, no? Un molto sondaggio serio, signor Maroni, molto serio. Vabbè, molto sei... serio. Vabbè, lasciamo perdere. Io sono un maronita. Maronita è un altro, che stavano in Libano i maroniti. Ah, già, è vero. Allora sono una specie di barbaro sognante, per usare. Vabbè, Maroni, a un certo punto c'è un sondaggio in cui dice che volete il ritorno di Berlusconi, 62% sì, di no. Beh, una domanda c'è abbastanza. Maroni a un certo punto rimane un po' in silenzio perché Floris gli fa la domanda: ma lei teme il ritorno di Berlusconi? Lo vuole? Se lo auspica o no? Sentiamo. Allora, secondo Berlusconi il governo tecnico non ha dato frutti, quindi si aspetterebbe di essere richiamato al governo. Lei, onorevole Maroni, lo teme, ci spera o ci crede? Io ci credo. E lo teme? No. Risposta molto diplomatica. In realtà poi noi abbiamo accorciato tra la domanda di Floris e la risposta di Maroni. Qualche secondo di silenzio, forse. C'è qualche secondo di silenzio. Bravo. C'è qualche secondo di silenzio. Crozza su... è fissato ancora su Berlusconi, Vabbè, fissato. No, vabbè, no, fissato no, è giusto. Però la satira ancora tiene qualche cartuccia su Berlusconi, sì, sì. Il paragone Monti-Berlusconi, sentiamo. Cassera, la simpatia anestetizza. Cazzo, guarda che Berlusconi era un genio. Con la simpatia ci ha anestetizzati tutti. È stato il più grande anestatista degli ultimi 150 anni. Lei Poi ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là. Prima i camionisti, per farli stare buoni, davano, questa era buona, questa era molto buona, davano il calendario della Carfagna, oggi non possono più dare nulla. No, terribile. No, no, è buona questa. Bella, sì. Capisce, Passera, che col governo che c'era prima, se i camionisti si incazzavano, gli regalavano qualche calendario della Carfagna, stavano buoni. Voi che calendario gli regalate, Passera? Monti, agosto, Monti che fa benzina. Oh. Novembre, la Fornero che piange. Ma noi qui abbiamo ospite un importante esponente della Lega Nord, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, che una volta se ne uscì con una frase che per noi della Zanzara è rimasta scolpita nella pietra. Nella pietra. Non Vogliamo sapere soprattutto se ha cambiato idea su questo argomento. La fai risentire, immagino. La frase è questa. Il nostro leader è Umberto Bossi, per cui guardi, io le dico in maniera molto chiara che se Bossi dovesse dirmi che la mia giacca è bianca, io molto probabilmente in questo momento le direi che la mia giacca è bianca e ha qualche filettatura grigia. Questo, forse non capiamo questo, quanto è la Lega, che cos'è la Lega? È il segretario federale che dà le posizioni, punto. La frase è del 27 di aprile. Davide Boni, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Senta, è Bossi che dà le posizioni. La giacca oggi è nera. Sì, lo diciamo per chi ci ascolta. Giacca nera, cravatta nera. Come dire, fazzoletto verde di ordinanza sulla sinistra. Un braccialetto verde, però c'è anche il braccialetto bianco della Lombardia. Non è il braccialetto bianco quello che sembrerebbe usino i maroniani, no? No, io non l'ho visto. Non l'ha visto questo braccialetto. Lei è un barbaro sognante, cioè un uomo del gruppo di Maroni? Ma io sono un leghista. Eccola. Dunque non è un maroniano. No, cioè io seguo con grande interesse sia Roberto Maroni. Ma si siete più vicino Roberto a Maroni Calderoli. O a Bossi? O al cerchio magico, diciamo. Non a Bossi. Questa è la domanda. Tutti cioè, sono vicini a Bossi. Non giriamoci intorno. È più equi vicino a Maroni o equi vicino al cerchio magico? Guardi, io se vogliamo parlare di geometrie, ho ricevuto una righellata quest'estate da quella geometria, per cui sicuramente... Quale geometria? Quella del cerchio magico? Sì. Quindi è un maroniano. Sì. Che righellata ha ricevuto dal cerchio magico? Perché... Un rimprovero? Un cazziatone? Usiamo un termine dalla Padania. Che cosa ha fatto di grave? Espresso rispetto a un capogruppo, per cui... Ah, dunque, una dichiarazione arriva subito un rimprovero da parte del cosiddetto cerchio magico. Chi la rimproverò? Ma mi rimproverò... Chi? Il capo del cerchio magico? Chi? No, un parlamentare, per cui... Appartenente a, quella, a quel gruppo, a quell'area lì, molto vicina, che ora non esiste più. Esiste ancora il cerchio magico, secondo me? Io non lo so, guardi, perché io cerco di evitare, siccome non ero bravo in geometria, infatti l'istituto tecnico le capisce bene, che cerco di evitare queste cose. Però mi sembra lei più vicino, come dire, sicuramente distante dal cerchio magico. Sì. Distante. Più vicino a Maroni, si può dire? Sì, nel senso che sto seguendo questo. Io credo molto in Umberto Bossi, attenzione, 22 anni di militanza. Tutti noi, Cruciani, tra virgolette, nella segreteria nazionale di Roberto Calderoli. Qui c'è dunque, questa cosa. È più calderoliano. Come si fa a essere calderoliano? Ecco, qui è questa domanda che ricordo. Che ma no, ma come non si fa a essere calderoliano? Perché questo è interessante. No? Dice, io credo in Calderoli. Dopo è una cosa interessante di oggi. Però poi, come dissi tu, come ha detto Cruciani su Gasparri, no? Dice, io credo in Calderoli. È un atto di coraggio quello che lei fa, no? Dice, io credo a un movimento come quello che ho visto mercoledì sera a Varese, Umberto Bossi, Roberto Maroni e Roberto Calderoli. Sì, certo. Diciamo io che dopo è successo anche qualcosa, come sai, insulti, parole queste grosse, cose qui, io non le, a me non piacciono queste cose. I cori contro la signora Mauro, non piacciono perché lasciano, lasciano sempre degli strascichi che non dovrebbero esserci. Dunque gli insulti, ha sbagliato Maroni a stare lì? Per no, no, beh, ma io credo che, almeno io non ho visto i filmati, ma credo che Roberto Maroni, quando uno va a una cena, è naturale che ci sia di tutto e ascolta di tutto. Senta una cosa, ma dunque ritorniamo al discorso precedente. Lei ha cambiato idea, cioè dire, se oggi Bossi dice lei non ha una giacca nera ma ce l'ha viola, ce l'ha bianca, lei come risponde? Beh, è naturale che è nera con alcune sfumature viola. Però lei ha cambiato leggermente. No, non ho cambiato, ma oggi il Cosa è disposto a fare lei per Bossi? Cioè, se Bossi dice una cosa, allora, fino a che punto riesce a spingersi? Io ho fatto 20... oggi non sarei il presidente del Consiglio regionale se non fossi entrato in Lega 22 anni fa, in 18 anni di amministrazione. Questo è dovuto al fatto che mi sono stato candidato dalla Lega Nord, per cui ho una grande riconoscenza nei vertici che hanno creduto nelle mie capacità. Questo d'accordo, cioè, se non fosse per Bossi non sarei lì. Bravissimo. D'accordo. Che tanto per parafrasare quello che mi hanno detto oggi sul Corriere della Sera, se domani Bossi dice staccate la spina, io stacco la spina. Se Bossi dice la regione la Lombardia alla Formigoni. Sì, ma quando bisogna staccare lei la spina, ha già la mano pronta, secondo me. Beh, la mano è già sulla spina. Io mi muovo rispetto alla, ma non la stacco mai io la mano dalla spina, perché non si sa mai. È Bossi che la stacca. È naturale, lui che dà il che qualcuno diceva ma forse codici. Per lei, però adesso lei è un essere pensante, non è che quello che dice Bossi è legge in automatico, no, sì. No. Non è legge in automatico. Però quasi. Quando si deciderà questa cosa? Politicamente. Possiamo dire a marzo? No, aspetta, politicamente dico, politicamente. E quello che dice Bossi è legge, cioè sì, non si deve, secondo lei non si deve obiettare. Non si può discutere. No, non si deve, si discute, perché c'è lo spazio di discussione. Però, però alla fine si obbedisce. Beh, naturale, perché in una fase dove il segretario federale è eletto da un congresso, certo, lui è la Lega, e quando si parla col segretario federale... Ci può anche essere un momento di discordanza, però alla fine si obbedisce, si ragiona e molto probabilmente il capo... Cioè è come il Corano, insomma, non è che si può discutere il Corano. Cioè no, ma non è che, ma non è un dogma, cioè non è che uno vede il rovo che brucia e si domanda, non si domanda, brucia, quello brucia. Quando stacca, entro quando si saprà? Secondo lei però entro marzo si decide? Ma guardi, tutti no, diamo, i giorni, allora, notizia. Tutti i giorni potrebbero essere buoni, come tutti da qui a alla fine della legislatura, cioè la partita non si gioca in però non si finisce Lombardia. Questa legislatura è difficile, ma da finire quella finire regionale, ma questa qui io non lo so, perché secondo me ci sono anche delle altre variabili in cioè situazione. Arresti le elezioni nazionali quello non mi porti no? su quelle cose o anche arresti le elezioni ma guarda, io gli arresti purtroppo li ho vissuti, perché due miei colleghi sono stati arrestati dell'ufficio di presidenza, sì. Lei capisce che non è uno al lunedì arriva in ufficio, apre la porta e uno gli dice guarda che stanno arrestando uno dell'ufficio di presidenza. Però mi dica la verità, è molto difficile che si arrivi al 2015, cioè, se non impossibile addirittura, con Formigoni. Ma non lo so, perché vedo che sta adesso modificando la giunta e tutto il resto, però come ho detto, una qualsiasi azione di questo genere qui passa attraverso il gruppo della Lega. E io mi adeguo a quello che decide il gruppo della Lega. Però al di là di staccare la spina, no, in generale è difficile che alla fine della legislatura non si arriva. Ma io spero di sì. A lei spera di sì? Io spero di sì per il bene dei Lombardi. Però sarebbe meglio non fare altre elezioni. Ma io spero questo. Se però succedono... Cioè se Formigoni si candidasse... Se Formigoni si candidasse scatta un problema, perché è naturale... Beh, però le altre volte ha fatto la stessa cosa. Capito? Questa volta sarebbe, secondo lei... Non lo so, perché io le dichiarazioni che ho visto, lui ha detto che continua fino alla fine della legislatura. Poi non si ricandida, ha detto. Ma no, non è che non può farlo. Eccoci qui con Davide Boni, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, i nostri microfoni 800 24 00 24. Oggi Formigoni ha detto, a proposito di Nicole Minetti, chi è Nicole? Che in realtà gli è stata Nicole Minetti, consigliere regionale della Lombardia, Minetti? Attualmente negli Stati Uniti, in vacanza, o sbaglio Boni? Non si vede in questi giorni al Consiglio regionale? No, non l'abbiamo vista. Ma si lavora in questi giorni, no, in regione? Sì, si lavora, abbiamo però lei è in America. Ieri. Però lei è in America. Non prende la diaria, non firmando non prende i soldi. Ma com'è? Attiva? È molto presente? Ma io... Lavora o no? Mi dica la verità. È più attiva o più bella? Questa è la buona, signora Minetti è più attiva. Non rida. Questa è la bastardata di Parenzo, sì, si chiama. Bastardata. È più attiva o più bella? O più bella. Oggettivamente, siamo oggettivi. Ma sa, è oggettivamente la bellezza. Devo dire che è più bella che attiva, su. Ma io purtroppo in aula, io la vedo un po' poco in aula, però vedo che in commissione partecipa. Non ha risposto alla domanda: è più bella o più attiva? Insomma, da un parametro a 0 a 10, sì, una ragazza così giovane, sì, è molto bella, ecco, sì, per cui bisognerebbe essere super attivi per superare la bellezza. Bravo, dunque è più bella che attiva. È più bella che attiva, va bene. Senta, ma io voglio capire una cosa. Formigoni ha detto che secondo me in maniera clamorosa, soprattutto perché ha coinvolto una persona deceduta, l'ultima parola sulla candidatura della Minetti, che lui non voleva, dice Formigoni, è stata quella di Don Berzè. No, è morto. Cioè, ho chiesto informazioni a Don Berzè e mi ha detto che era una brava persona, eccetera, eccetera. Non può smentire. Che ne pensa di questa cosa, Boni? Sono affari loro, lei dice. Sì, no? Però non l'ho letta anch'io. È naturale. Una cosa di cattivo gusto, secondo lei? Mettere in mezzo Don Berzè? Sì, secondo me sì. Personalmente, poi il presidente della giunta fa quello che vuole. Però personalmente. Cioè non si è comportato bene dicendo questa cosa. Ma no, perché alla fine uno si assume le proprie responsabilità, no? Il listino è tuo? Cioè, al di là di tutto, sì, la Minetti è arrivata come tanti altri, soprattutto lei è arrivata nel listino, ma alla fine io credo che bisogna far gruppo. La scelta, no, finale del presidente, il nome del presidente è quello sulla scheda del listino, lista Formigoni, dunque sì, la responsabilità di Formigoni, non di Don Verzé. Ma sai, io Don Verzé non lo conoscevo, no, no, e poi tirare in ballo dei morti mi sembra, ecco, di cattivo gusto, vi lasciamo andare. Senta, lei è uno di quelli che dice, come alcuni esponenti della Lega, ho sentito che Monti è peggio di Schettino, è come Schettino? Qualcuno l'ha detto, Sì. Sì, credo che ci stia portando verso la disperazione totale. Dunque questo la paragone ci sta. Ma Schettino ha abbandonato la nave, e questo qui secondo me proprio non l'abbandona, perché non... lui non è sulla nave, cioè sta da un'altra parte. Ce la sta portando a... Secondo me sì. Come la Concordia, l'Italia come la Concordia. Soprattutto sono i passeggeri che sono stati abbandonati. Gli italiani. E dov'è Monti? Italiani. E dov'è Monti? Monti è lontano. Nocchiero, dov'è? Il nocchiero è al di sopra di tutti. Ha evidentemente qualche altro strumento per guardarci dall'alto. Perché sennò non si possono dire alcune cose, io credo. Senta, ma è vero che quell'iPad che lei ha davanti l'avete regalato a tutti i consiglieri della Lombardia? Non l'abbiamo regalato a tutti i consiglieri della Lombardia, l'abbiamo dato in dotazione in sostituzione di altre cose. Oggi noi non facciamo più neanche la rassegna stampa cartacea. Abbiamo risparmiato 1.000.000. Cioè lei dice, noi abbiamo regalato, quanto è costata l'operazione? L'operazione è costata intorno ai 50.000 euro l'anno Quindi scorso. 50.000 euro per... Abbiamo fatto la sperimentazione per un anno però col vecchio tipo. Per dare a tutti i consiglieri regionali un iPad. Sì. Come strumento di lavoro? Sì, due iPad? No, l'iPad 2. Ah, l'iPad 2. Perché questo sta diventando la sua... Chi non ha questo non riesce più a lavorare in consiglio regionale. Addirittura, cioè senza l'iPad 2 non si riesce a lavorare? No, senza questo tipo non potrà più... Non si potrà lavorare. Perché non gli arriveranno più le notizie in rete, questa è un po' la posizione che abbiamo. Quindi non è un premio un po' da casta, non è percepito No, beh, ma questa cosa qui non l'abbiamo mai pensata, tant'è che è stato preso da praticamente tutti i gruppi e come ho detto, secondo gli ultimi stimi... Tutti i gruppi hanno preso l'iPad? No, tranne l'Italia dei Valori, se non sbaglio. No, tranne uno dell'Italia dei Valori, perché voleva che gli regalassimo gli strumenti, le dotazioni, come si chiama adesso? Le applicazioni. Bravissimo. Cioè, voleva anche l'applicazione. Sì. Chi è questo dell'Italia dei Valori? Sola, mi ha detto. Si chiama Sola? Sola. No, dai, non dica. Io ti dico quello. Io ho letto la lettera e mi ha mandato. Il signor Sola dei Valori dice: lo prendo, però poi noi gliel'abbiamo rimandato. Perché ma anche i leghisti hanno ritirato l'iPad. Sì, perché li abbiamo. In un primo momento c'è stata una incomprensione, poi gli abbiamo fatto vedere i risparmi. Rispetto ai costi. Quindi 50.000 euro spesi per dare l'iPad a tutti i consigli regionali, però lei dice si risparmia sulla carta. Andiamo, le faccio un conto che un milione di fogli l'anno scorso, quest'anno. Non siamo la casta. No, cioè non è una cosa da privilegiati questa cosa, è un risparmio. Assolutamente, tant'è che ne controlleremo, controlleremo. Cioè è un po' come regalare, come dire, non so, il martello a un falegname. Dice lei un falegname, no, un martello. Più che regalare è potenziare un trappano. Lei è un trappano che ci impiega 4 ore a fare il buco. Con il trappano nuovo lei in 2 minuti fa il buco. Questa è la cosa. È uno strumento di lavoro necessario. Faccio l'esempio. Noi avevamo 4 commessi in aula, durante le sedute d'aula, che facevano 2 rassegne stampa per ogni consigliere regionale. E invece adesso non lo fanno. Adesso più. No, perché gli arriva qui. E quei 4 cosa fanno? No, quei 4 fanno altre cose. Iniziano a puntare il buco. Secondo lei Renzo Bossi che futuro ha nella Lega? Ma Renzo Bossi ha il futuro come tutti gli altri consiglieri. Più si allena e più fa il consigliere regionale. Si deve allenare ancora molto, Ma è naturale, come tutti quelli all'inizio. Io quando ho iniziato a fare politica avevo 28 anni, a 31 facevo il presidente della provincia. Devo dirle che ho preso diversi pali prima di imparare. Lui ne ha preso. No, è una questione di allenamento, però. Deve ancora imparare parecchio. Ha fatto dei progetti di legge, cosa non faccio io. Insomma, uno sul crocefisso in aula non mi pare proprio un progetto di legge complicato. Però è stato fatto. Ha preso anche in tutte le aule. Crocefisso? In tutte le aule della regione, non mi dico, tutti gli uffici della regione, una cosa del genere. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. Lo sai, Parenzo, qual è la cosa che mi fa più incazzare in queste ore? è che no. per l'ennesima volta questo governo, per rimediare ad una situazione che si è creata sugli esodati, non diciamo niente, come è stata creata, chi l'ha creata, non mi interessa adesso. Per rimediare ad una situazione, chi sono gli esodati, chi ha diritto, chi non ha diritto, non mi interessa. La cosa che fa incazzare di più è che per recuperare da questa situazione pensano a mettere un prelievo del 3% su quelli che loro considerano ricchi. Su quelli che loro considerano ricchi, cioè quelli che hanno oltre i 150.000 euro all'anno, che non sono affatto ricchi. No, infatti, sopra i 150, sopra i 150. Sopra, perché tu ti senti ricco che guadagni sopra i 150? Ti senti ricco? Ti senti ricco o no? Ammettilo. Ricco assolutamente no, ma sono disposto. Ma dove sei che non si sente? Dove sei? Che strilli? Dimmi. Ho detto, posso pagare un contributo. Ma disposto cosa? Sei disposto? Poi mi chiedi dove sono. Sei disposto a farti rapinare come al solito? Vuoi dimmi. Sapere dove sono? Dove sei? Sto andando in farmacia a comprarti la crema per le emorroidi. Ecco, se vuoi sapere. Ma io non ho le emorroidi, per cui è inutile. Buonasera, premesso. Sto andando comunque, se mi hai chiesto, volevi sapere. Ma no, ma a parte che siamo in due città diverse, dunque è difficile che tu possa comprare la crema a me, insomma. Perché te la spedisco. Ma no, ma faccio prima andare in farmacia io, che dici? Volevo tenere riservata questa cosa, mi hai chiesto dove sei e io rispondo per trasparenza. Sto andando in farmacia a comprarti la crema per le emorroidi. Vabbè. Titoli del TG3. Meglio. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La Camera boccia i tagli retroattivi degli sconti fiscali e quelli di sanità, i costi della politica e degli enti locali. Tassa per gli esodati, nodi Confindustria e PDL. Agguato ai soldati italiani nell'Afghanistan occidentale, nello scontro a fuoco morto un militare, altri 3 feriti, non sono in pericolo di vita. In un video messaggio Berlusconi torna a spiegare perché fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura a Premier al TG3, il commento di Giuliano Ferrara. Nel PDL si apre la corsa delle primarie, si voterà il 16 dicembre, Alfano ora siamo concentrati sulla Sicilia, poi parleremo di alleanze. Bersani, non c'è alcuna possibilità di un Monti bis, no maggioranze spurie, le primarie salutari per il paese, nelle regole arriva la registrazione online. Salta a Palazzo Madama l'accordo sulla diffamazione, molti senatori contrari alle riduzioni di multe ai giornalisti e favorevoli a norme più dure. Processo a Vendola per abuso d'ufficio, la procura chiede 1 anno e 8 mesi, il governatore dice se mi condannano lascio la vita pubblica. Non sia normale che la fine debba arrivare, non aspetta neanche il Natale, ma il divino dice no, niente fulmini e saette. Parenzo, dove sei? Sono in farmacia. Ma stai sentendo o no? No, sto sentendo, ma mi sto anche, diciamo, facendo le corna a carne. È una delle ultime produzioni del Divino contro la profezia sui Maya. Lui contro la profezia sui Maya. È un buffone. È un pagliaccio. Se canta pure male quel pagliaccio. Guarda che fra poco si scatena contro di te se continui, eh. Beh, ma lo senti come canta? Ma tu immagini la gente che poverina è in auto, è in macchina ed è abituata a sentire la nostra bellissima trasmissione e sente quella roba dei Maya. Ma la gente, ma si sbanda, ci saranno incidenti sulle autostrade? Sentilo. Anche in TV, interpretando i calendari a loro modo, su per giù. Noi l'abbiamo letto nelle stelle. Noi. E sappiamo che non avverrà, ne vedremo delle belle. Che traccio. Ma così si canterà. Mai al mondo verrà la fine. Come sempre continuerà. Allora. Allora, dico, ma perché non scatta il ricovero coatto per certa gente? Cioè, ci vuole un ricovero coatto. Allora, io voglio dire una cosa però. Il nuovo capogruppo della... Non c'entra niente, però un po' sì. Il nuovo capogruppo della Lega Nord al Parlamento Europeo, l'amico Lorenzo Fontana. L'amico, esatto. Dico l'amico Lorenzo Fontana, lo dico veramente con affetto, veronese, tifoso del Verona, grande amico del sindaco di Verona Tosi. Da poco, nuovo, da qualche ora, nuovo capogruppo della Lega Nord al Parlamento Europeo, ha esordito in questo modo. Fra poco ti racconterò, Parenzo, lo sai anche tu perché me l'hai segnalato ieri. Insieme al signor Borghezio, volevano portare la statua della Madonna di Fatima al Parlamento Europeo per benedire l'Europa, per farla uscire dalla grave crisi in cui è. Stai attento a quello che ti dico. Non ci sono nemmeno riusciti, tra l'altro. Non ci sono riusciti perché la statua si è fermata, pare, all'aeroporto di Amsterdam. Lo sai che cosa volevano fare? Aspetta, sai cosa volevano fare? Volevano convincere il Santo Padre a consacrare in maniera solenne e pubblica la Russia. Bastano 5 minuti del tempo del Santo Padre dei Vescovi, chiedete che lo facciano. Anche se non ci credete, non c'è nulla da perdere all'obbedire al messaggio di Fatima per salvare questa Europa al bordo dell'Apocalisse. Hanno scritto anche un testo, qualcuno ha firmato, la signora Gardini, il signor Silvestris, qualche parlamentare europeo hanno firmato questa cosa. Perché la Madonna di Fatima salvi l'Europa? Ma di cosa stiamo parlando? Apicella, come canta il Divino Telma? Vuole un parere tecnico? No, ma mi dico un parere spassionato, però. Non faccio il democristiano, Apicella. Parere spassionato, male. Male, fa schifo proprio. È una mezza munnezza, su, diciamo la verità. Oh, no. No, dai. Ma sì, dai, su. È una brava persona. Ma no, ma chi ha detto che è una cattiva? Non è una brava persona. Parenzo, mamma mia, ma che è questa voce che non si sente? Ma dove sei? Fermati. Vabbè, ma bisogna avere anche un po' di bontà nei confronti delle persone. Ma noi non siamo buoni, noi non vogliamo essere buoni. Essere buoni è una iattura, caro. Berlusconi è buono, che le regala le case. No, le regala, le compra le case. Mi limito a dire che canta male. Mi canta l'addio allora, Berlusconi? No, ma guardi che... Una canzone per l'addio di Berlusconi, su, Apicella. Ma quello di Berlusconi non è affatto un... Ma come non è un addio? Ha detto che si ritira, non si candida più premier. Guardi, io sono un po' scettico in questa cosa. Come scettico? Pensa che tornerà Berlusconi a candidarsi alla presidenza del Consiglio? Non so, mi dà l'impressione che si sia tirato un attimino indietro per la confusione che c'è nel partito e la confusione attuale che c'è. Ma in realtà, poi ritorna? No, ma Berlusconi è uno che non sa stare con le mani in mano. Ho capito, farà qualcos'altro, magari comincerà a cantare seriamente, a comporre ancora altri album con lei. Ma no, a lui piace scrivere canzoni con me e poi piace ascoltarle da me, ma non penso. Lo sai che cosa ha detto oggi Rubi in un'intervista che andrà a servizio pubblico questa sera? Che tra 30 ragazze Berlusconi capisce dove può e dove non può. Si ballava, ognuna faceva quello che riteneva giusto fare. C'era la ragazza più spigliata e quella meno spigliata. C'era quella che lo voleva fare e quella che no. Se lo volevi fare lo facevi, se no stavi seduto sul divano. Balletti hard? Sì, c'erano balletti hard. Le ragazze sono sempre libere, maggiorenni e vaccinate. Se il premier ha provato a fare sesso con me, chiedermelo in maniera esplicita, no. Dipende dalla ragazza come si pone. Fra 30 ragazze lui capisce dove può e dove non può. E poi ha detto che la figlia Sofia non la manderebbe mai ad Arcore. Lei che dice, Apicella? Ma non lo so, guardi, a volte poi ci sono le persone che vogliono anche un po' approfittare della situazione. Però è vero che Berlusconi capiva quando ci poteva provare con qualcuno oppure no? Apicella? Ma guardi, io non c'ero davanti quando... Quando è che andava via? Ma andavo via un po' prima che andassero loro, voglio dire un quarto d'ora, 20 minuti prima, tutto qua, non è che... Cioè, poi ognuno dice la sua, è tutta una situazione... Ma lei Starubi l'ha conosciuta, Starubi? Starubi l'ha conosciuta? Quello che ho visto è la verità, l'ho raccontata lì al Palazzo di Giustizia a Milano. E vabbè, non succedeva niente, erano cene eleganti, normali, e lei andava via, poi... Normale, si raccontava una barzelletta, diceva, qualcuno faceva una battuta, insomma, non è che si faceva si facevano le preghiere, però non si facevano manco queste robe che scrivono. No, non si facevano le preghiere, però nemmeno le orge, dice lei, no? No, assolutamente no. Però qualche bacetto, scritto, qualche mano allungata, l'avrà vista lei, qualche atteggiamento? Io non ho mai visto. Io non l'ho mai visto. io non l'ho mai vista, mi creda. Senta, Picelli, io non ho capito. Io sono uno, lo sa che sono uno sincero. Sì, Parenzo, che volevi dire, scusa? No, voglio dire, ma perché la signora Rubi dovrebbe dire delle bugie? Vabbè, adesso cioè, lascia perdere, potrebbe dire le bugie perché siamo al procedimento. Ma per che interesse, voglio sapere secondo me. Ma che c'entra, non dai, so su. Non so per chi potrebbe, non so per chi potrebbe. Vabbè, ma non è, ma è evidente che qualche bacio, ma si può dire, cioè, Apicella, qui siamo veramente in un mondo, una società laica e liberale, allora, guarda, nonostante qualcuno porti le Madonne in giro per il Parlamento Europeo, ma voglio dire, una società laica, diciamo tranquillamente, c'è stato qualche bacetto e qualche, allora, e qualche mano nelle, sulle, allora, nelle se cosce. Mi vuole, insomma, se mi vuole bugiardo, le dico di sì. No, che bugiardo, no. Ecco, no, allora, io le sto dicendo, lei non ha visto niente, vabbè. Davanti a me non si è mai verificata una roba del genere. Io vorrei capire, casa sua, scusi Apicella, quella famosa casa di cui abbiamo parlato prima, no? Casa sua, adesso Berlusconi che ci fa con questa casa? Pare che sia in venduta, lì abbandonata, ma no, non, ma non è manco affittata. Non ci fa, ma Berlusconi non ci fa la nulla. La deve rivendere adesso, la deve rivendere. Esattamente, ma perché la società compra e vende case. Ma mi sa che ci perderà a vendere sta casa, eh? No, non ci perde, guardi, se la vendi al momento giusto non ci perde, mi creda. Vabbè, io l'ho fatta, vedremo, vedremo. L'ho fatta apprezzare da, certo, da agenti immobiliari qui di Albano. Però Picella, una strofa per l'addio di Berlusconi me la deve fare, proprio in conclusione. La faccio, però mi lasci dire un'altra cosa. No, abbiamo finito, lei ha chiarito tutto sulla casa, una strofetta. No, una cosa, me la consente una cosa sola? Mi dica. Che qualora si dovesse presentare l'occasione di andare in televisione, io mostrerò anche un bel mutuo a mio nome che ancora sto pagando. Ma su che? Su quella casa? Su quella l'avevo già finita. Ah, sull'altra casa, cioè l'altra casa l'ha comprata col mutuo, vabbè. Ecco, solo per far capire. Va bene, perfetto. Nessuno mi regala le case. Va bene, la strofetta. Che mi portate a fare coppa pusillaca, si non mi può più bene. E questa che è l'addio di Berlusconi. Non sarà un addio, sarà un arrivederci, mi ascolti. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo Elo, voi rispondete im. Elo? Im! Elo? Im! Mai al mondo. Beh, siamo al top, eh. Se voi dite pir, voi dite la. Se voi dite pir, voi dite la. Ma io dico pir la. Con quale telefono sei in collegamento, scusa? No, c'ho il filo, l'auricolare. Ma amico mio, ma di che stiamo parlando? Ma perché mi devi fare... Taglielo, cosa ti chiama esattamente? Non si sente niente, non si sente niente, si sente una voce stridula. Ma io che cosa devo fare? Aiutatemi voi, che riesco, sono le 19.35, su Radio 24, La Zanzara, una trasmissione che, lo sapete, è inutile che ve lo dico. Ma di che stiamo parlando? Aiutatemi voi, tecnici, amici che siete a casa. Ma non c'entra niente, sei tu che sei assolutamente privo di qualsiasi logica. Sei privo di qualsiasi tipo di comportamento. Non lo so come dire, non lo so, cioè non vado ai matti, cioè non devi gridare, stai in posti assurdi. Tutto quello che non bisogna fare lo fai. Sembra mia mamma. No, ma non sono tua madre, è la realtà, cioè è la realtà. Poi c'è anche una componente tecnica che lasciamo perdere, insomma, faccio appello. Comunque, se vuoi ti passo un ospite grandioso che ho qui vicino. No, non mi interessa, chi è l'ospite grandioso? Dove sei? Dal formaggiaio, come al solito? Dal formaggiaio, dove sei? No, sono in farmacia, facendo la fila per comprarti la solita cosa per le... Ma per non le ho parole. Bisogno, non ho bisogno di quella roba lì. Non ho bisogno. Questo non lo valuti tu, intanto. Lo valutano le persone che ti vogliono bene, che ti fanno vicino. Senti Grillo, su un siciliano di 80 anni che l'ha avvicinato, ti prego. Devi togliere l'auricolare, poi diventa una bestia. Togli l'auricolare, maledizione. L'ho tolto già. Oh, ecco. Dei vecchi di 80 anni, uno mi ha fermato. Lì erano i scemi, ma si è aggrappato. Avrà avuto 80 anni dalle mani così. E mi ha detto Grillo, t'ho scritto su YouTube. È già cambiata la Sicilia. Ma lo spray sul TG4 ce l'abbiamo? Lo spray sui giornalisti del TG4 che c'era? No, no. Spray. Ma una domanda alla volta. Una Sicilia depredata come le sistemi. Apri. È una Sicilia depredata? È una Sicilia che è straordinaria, si sta togliendo di dosso 40 anni di predazione. Ormai non c'è più il voto di scambio, non ci sono più i piccioli come dite voi, no? Adesso è finito il futu che Dio perdona tutto. Non c'è più niente. Giannino su Berlusconi, vi prego, Giannino su Berlusconi. Maia, gridare aiuto. Non potevamo che cominciare con Berlusconi che si ritira, anzi si ma di che cosa parliamo? Si è ritirato, quante volte? Fanno le primarie, ci credono davvero? Vediamo con che regole, chi le stabilisce? Un'assemblea di non eletti, con quali criteri? Le convocate, le alte, le basse, le bionde, i bruni, quelle con le mani pulite? No, quelli non possono. Si è ritirato? Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo Elo... Eccoci qui, Angela da Viterbo, buonasera! Buonasera, Cruciani. Vado consigliarvi di non fare troppa ironia su questo fatto. Che quale fatto? Vogliono consacrare il Parlamento europeo alla Madonna, perché... è l'unica cosa che ci resta da fare. Ma di che parliamo, signora Angela? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? La statua della Madonna al Parlamento europeo? Sì, come no? Ma quando mai? Al Parlamento europeo, al Parlamento italiano, dappertutto. Ma quale statua della Madonna? Ma scusino, ma non mica voglio essere blasfemo, ma non è che due parlamentari portano la statua della Madonna al Parlamento europeo per consacrare l'Europa e per salvare l'Europa? Ma di che parliamo? Su, Angela. Ma che è così che ci salveremo? Ma i pazzi pensano di salvarsi così, i malati? Beh, continuate a fare l'ironia su questa cosa. Ma non è ironia, Angela, su. Insomma, diciamo la verità, è una cosa che si può tollerare, ma va benissimo, ognuno è liberissimo di farlo. Certo, credere che la Madonna di Fatima, la statua portata al Parlamento europeo, possa salvare l'Europa dalla crisi, vabbè, se lei ci crede va bene. È un simbolo. Ma di che parliamo, dai? No, è una cosa... Va bene, Andrea da Torino. Se io fossi religioso, sarei profondamente offeso da religioso da questa cosa, che un partito politico porta in giro la Madonna per l'Europa. Ma di cosa stiamo parlando? Un partito politico? Possiamo essere amici del signor Fontana, una Mattana del signor Borghezio? Ma non c'è neanche da discutere. E lo so, ma che vuoi fare? Qualcuno invece discute. Andrea da Torino, buonasera. E vedrai che ci saranno un sacco di gente che chiamerà incazzata, state prendendo in giro la Madonna. È il contrario. Invece spieghiamo che è proprio per rispetto che dobbiamo avere di chi crede, e chi crede si deve ribellare a questa roba, quindi bisogna essere seri, chi crede e questa statua resti all'aeroporto di Amsterdam, questa statua che non entri al Parlamento europeo per questa buffonata. Paolo, certo, chi c'è qui? Difendiamo la Madonna dai leghisti, questo è il punto. Ma non dai leghisti, da chiunque, che me ne frega che sono della Lega. Andrea da Torino, in particolare dai leghisti, in questo caso sì, però guarda che quella mozione là folle l'hanno filmata anche di gente del PDL. Andrea da Torino, buonasera. Buonasera, quattro volte. Stai zitto. Allora, io sono un berlusconiano ante litteram, prima del 94 ancora ero berlusconiano. E allora? Dell'imprenditore. E volevo dire che ho ammirato moltissimo il Berlusconi iniziale. Sì. Secondo me poteva spaccare, aveva delle belle idee. Poi? Durato un anno, secondo me, ha fallito completamente tutta la sua rivoluzione. Sì. Adesso mi dispiace umanamente che lasci, l'età è quella che è, ecco. Adesso devo fare le primarie. Lei ci ha fatto il riassunto, già lo sappiamo tutto, sì, questo. No, poi... no, vuol dire che io un cavallo buono ce l'avrei, purtroppo. E chi è? È dall'altra parte. Cioè lei chi è? Renzi? Renzi. Matteo Renzi. E perché non va a votare alle primarie del Partito Democratico? Perché, allora, se Matteo Renzi mi dice... Nessuno glielo impedirà, è un po' complicato, oggi hanno deciso che anche quelli che si iscrivono via internet... Poi aspetti un attimo, anche quelli che si iscrivono via internet, spero che il PDL faccia regole un po' più chiare, anzi sarebbe una bella fregatura per il PD se il PDL facesse regole meno rigide. Anche chi si iscrive via internet, sentite questa follia, le primarie del Partito Democratico, poi deve prendere questa roba, stampare forse questa iscrizione, andare in un posto dove ti dicono sì, è vero, ti sei registrato via internet, e successivamente andare a votare nei gazebo. Ma di che parliamo? Andrea, ma perché non ti prendi direttamente la tessera del Partito Democratico? Io non ho capito ancora bene. Anzi, la tessera del Partito Democratico firmata da Bersani, perché non te la prendi direttamente? Fai meglio, no? Andrea, stai zitto, Andrea da Torino, fammi sentire Andrea. Matteo Renzi, sì. Poi se casomai Matteo Renzi vincesse, con chi si allea? Si allea con Vendola, si allea con Di Pietro? Questo è interessante, questo è il problema. se si smarcasse, io sono lì già pronto a dargli il voto a Matteo Renzi, perché almeno vedo un po' no. L'unico difetto, secondo me, che ha fatto è che poteva dimettersi da sindaco di Firenze e buttarsi proprio a capofitto. Oggi c'è un'altra follia, grazie Andrea. Oggi c'è un'altra follia. Il candidato a tutto Tabacci ha rimesso le deleghe per un tot di giorni, quelli fino al 25 novembre. Le deleghe da assessore di Milano, cioè resta assessore, ma ha rimesso le deleghe perché dice che deve fare la campagna elettorale per le primarie fino al 25. Ma ti rendi conto o no? Cioè, ti rendi conto o no? Questa è oggettivamente una follia. Cioè, ma ti rendi conto o no? Ha rimesso le deleghe a tempo, ma di cosa stiamo parlando? Lo ripeto troppe volte stasera. Ma è una cosa ridicola, ridicola. Questa è una cosa veramente. Cioè, ma si dimettesse da assessore o da deputato, facesse qualcosa di concreto. È il candidato a tutto, è assessore, deputato, candidato alla primaria di centrosinistra, forse candidato anche alle primarie per la Lombardia. Sì, deputato, l'ho detto. Insomma, rinunciamo a qualcosa o no? Alla fine lo sai a cosa ha rinunciato? Alle deleghe. Cioè, rimane assessore ma senza deleghe. Ma è roba incredibile. Paolo da Macerata. Anzi no, Mauro dalla provincia di Como. Pronto? Ecco, io sono arrivato un po' in ritardo perché c'era... Ma lei non si deve giustificare, Mauro, non si preoccupi, vada. Sono arrivato in ritardo sulla trasmissione di Giannino, che purtroppo oggi ho perso perché forse mi ripeto, ecco, io ci credo poco alle dimissioni di Berlusconi, ho la non ricandidatura. Penso che sia una mossa propagandistica, si è impossessato di tutte le prime pagine dei giornali, adesso faranno o non faranno le primarie, dove naturalmente non emergerà un candidato che può rappresentare tutta la destra, e per cui Berlusconi ancora una volta si sacrificherà per il bene dell'Italia, naturalmente tornerà a essere l'unico candidato degno di tale nome a rappresentare la destra. Adesso questo, francamente, Mauro... Io, per carità, poi Berlusconi ci ha abituato anche a delle, no, delle capriole, prima ha detto che si candidava, adesso questa non si candida più, questa volta mi pare proprio che sia... Io faccio una scommessa, guarda, scommetto con te almeno 150 euro che non torna. No, 150 euro non è niente, scusa. Tutto in base al reddito. Tu vabbè, puoi comunque, scommettere 500. Che vergogna questa cosa del 3% di Monti, che vergogna, guarda, che vergogna, non mi ci pare pensare. Sono stato attaccato da un sacco di ascoltatori pubblica. Perché ho detto che quelli che hanno sopra i 150.000 euro non sono ricchi. Al contrario di quello che dice Bersani, cioè non sono ricchi, signori miei, perché ci sono professionisti che guadagnano 150-160 mila euro, che magari hanno due figli e devono mantenere anche la moglie, e non sono ricchi. Però non sono ricchi. Andare a prendere, e lo dico, ma perché bisogna andare a prendere sempre dalle tassando le persone con questo prelievo del 3%? Perché? Intervenire sulla spesa pubblica. Non ma tu fatto. Che sei un buffone, hai già detto di essere disposto a cacciare questi 3%, questo 3%. Ma quale vuoi? Tanto io non sono sopra i 150.000, per cui me ne fotto. No, sei sopra, sei sopra. Ma detto, ma chi sei adesso? Anche l'agenzia delle no, tante. Sei sopra, di la verità, sei sopra. Detto questo, non sono sopra, ma non ne parlo, pubblicherò la dichiarazione dei redditi. No, ma sei sopra, ma è chiaro che sei sopra, no? Ma è chiaro cosa? Ma parli come Taormina, ma è chiaro cosa? Aspetta un attimo, abbiamo un ospite, poi me lo dici, 30 secondi, poi un altro ospite. Mio fratello fa il chirurgo, come mio padre, e mio padre come mio nonno prima di lui, e mio nonno ha seguito le orme del mio bisnonno, sì, anche lui chirurgo. Io invece ho scelto un'altra strada. Buongiorno. Buongiorno, chef. La strada giusta è quella meno battuta. Nuova BMW X1 con pacchetto Navi Connection. Navigatore satellitare BMW Business. Interfaccia Bluetooth, USB e Voice Control a 950 euro. Con un vantaggio cliente di 1250 euro. E un'offerta valida fino al 31 dicembre 2012. La Zanzara. Qualcuno mi dice che in realtà questa cosa del 3% la proposta... La proposta del PD, poi il governo sembrava averla fatta propria. Adesso c'è il PDL e Confindustria che sono un po' in agitazione su questo. E con noi Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera Cruciani. Come buonasera. Sta? Come sta? Bene. Saluti, pure, come sta? Saluti pure Parenzo. Parenzo, ma è in collegamento esterno, mi pareva di capire. È in collegamento esterno, gli è caduta la linea come al solito. Perché... In mezzo alla strada. Ma gli vuole dire qualcosa, lei che ha fatto giornalista? Migliori la comunicazione telefonica? Non... Dateci no, un... per le antenne, la gente ha paura delle antenne, quindi non garantiscono un numero sufficiente di coperture per il territorio. Comunque Parenzo ce la farà. Ce la farà, ecco, infatti è tornato. Parenzo? Grazie Gasparri, grazie. Sono tornato, ero qui col formaggiaio, ma niente. Vabbè, andiamo su Gasparri che è meglio, va? Attento al colesterolo. Ecco, bravo, bravo, attento al colesterolo. Attento al colesterolo, ma è un grande... non gli frega niente della salute. No, a sembra uno si è rotto a tutte le esperienze. Le sono tutte, caro Gasparri. Caro Gasparri, no, proprio tutte. Comunque, io ho dei limiti. Lei mi sembra che vada Gasparri, sai che notavo oggi sul sito della Gabriel una sua foto. Lei ha fatto all'incirca 20 anni e 185 giorni, secondo una statistica. 6 legislature. Una sua foto praticamente è rimasto uguale, a parte no, cioè i capelli più bianchi. I capelli più bianchi, però, come dire, non è che poi si è invecchiato in maniera particolare. No, c'è no, una foto. Sono molto attivo, quindi alla fine l'attività mi quella dire... quella cosa lì che c'ha in quella spilletta nella fotografia lì al Senato, che cos'è? Una vecchia spilla del Movimento Sociale? Cos'è? Non lo so, non ho idea, non so a quale foto si riferisce. La vado a controllare, quella ufficiale sul sito del Senato, credo, eh. No, credo. Non lo so, forse era, non lo so. Chi gliel'ha messa? Manco lo sa, c'ha una foto a sua insaputa, no, pure non lei. No, non porto spillette abitualmente fisse. No, a volte c'ho una deficienza, perché sono cavaliere di Gran Croce nell'Ordine di Malta, altre volte che lei... delle spillette. E lei è cavaliere di Gran Croce? Anche, mi è successo anche questo nella vita. Beh, tanta gente. Ma come mai? Nell'ordine di Malta, però. Nell'ordine di Malta. Oggi è ma stata... Ma chi l'ha nominata cavaliere di Gran Croce? E quelli di Malta, quelli credo. Dell'ordine di Malta, perché da ministro ho agevolato, come dire, alcune loro sollecitazioni pluriennali per la circolazione dei francobolli nell'ordine di Malta. L'ordine di Malta è come uno Stato. Sì. Io ho risolto una vertenza tra l'Italia... E l'hanno nominata cavaliere dell'ordine di Malta. E hanno fatto un atto di riconoscenza, ma non hai capito? Hai capito? Quindi, come Berlusconi, è cavaliere pure lei, benissimo. Ah, è vero. Siamo tutti cavalieri, però non c'ho il cavallo io. Manco Berlusconi ce l'ha. No, Berlusconi manco mangia un sacco di tenute, di cose, vuoi che non abbia un cavallo. Ah, sicuro, sicuramente ce l'aveva. Il cavallo ce l'aveva Berlusconi, sì, quindi ce l'aveva Mangano. Ah, è vero, c'aveva lo stalliere, sì, certo, c'aveva anche il cavallo, non c'è dubbio. Sì. Anche adesso avrà dei cavalli. Anche adesso, nonostante Mangano non ci sia più. Oggi la battuta più bella però è stata fatta dal signor Rotondi, che devo dire ogni tanto Rotondi è un grande battutista. Rotondi ha detto, a me Alfano mi piace perché mi sembra Forlani con l'iPad. No, la cosa... carino, l'ho letto anch'io, sì, in effetti. Però Alfano, come dire... Forlani gli ha portato un po' sfiga, dato non è che Forlani sia... Si è finito benissimo, insomma, no? No, ma voleva dire che era un uomo di centro. Sì, sì, voleva dire che è un democristiano, cioè un democristiano. Beh, insomma, no, Forlani ma con l'iPad. Ma è un colorato, Angelino è una persona che... Vabbè, inutile, lei voterà Alfano alle primarie, su, mi sembra chiaro, no? Io sono un convinto socialista. Alfaniano. E le dico anche che noi l'abbiamo incoraggiato molto a questo gesto coraggioso di dire... Ora mai più, una volta che uno compie un gesto di coraggio, chi lo ha invitato a farlo ha il dovere morale di stargli accanto. Senta, se si candidasse uno ex end, per esempio la Meloni, facciamo questo gioco, no? Tra Alfano e Meloni, lei chi potrebbe? Ma guardi, non lo so, io... No, mettiamo, la Meloni... Io sosterrò Alfano, ne discuteremo tutti insieme, il problema non è ex end, io credo che si debba candidare il nostro alfiere che possa, per la Repubblica, essere il candidato che può davvero diventare Presidente del Consiglio. Noi faremo riunioni nei prossimi giorni, ci parleremo, però io credo che le primarie non debbano essere solo l'occasione per far vedere che c'è una pluralità di classe dirigente, bisogna anche scegliere una persona che davvero l'opinione pubblica possa immaginare come Presidente del Consiglio. E dunque da questo punto di vista Alfano è meglio di altri candidati? Secondo me è quello che abbina una esperienza significativa ma ancora una età giovane, cioè 40 anni. il quid ce l'ha secondo lei allora? Berlusconi sbagliò a dire quella cosa del quid. Si è mai chiarito se l'avete l'ha detto. Diciamo, guardi, io gli dico ce l'ha il quid, secondo lei ha il quid, diciamolo. No, le dico questo, Angelino è una persona normale, non è che sia Superman, però ha le virtù della persona saggia, simpatica, intelligente, colta. Cioè non è Berlusconi, non è Superman come Berlusconi. Berlusconi è un personaggio assolutamente irripetibile, eccezionale nella vita e nella storia italiana, e né Alfano si è mai creduto Berlusconi, però siamo in una fase in cui i leader possono essere persone normali, dice lei. Più normale, e Angelino è una persona che ha molti requisiti e soprattutto, non avendo la presunzione di essere Superman, ascolta, si confronta, e cosa che Berlusconi invece un po' meno, no, diciamo. Berlusconi è un protagonista, è una di quelle persone come ce ne possono essere 10 nella storia di un secolo. Ecco, di un a proposito, secondo lei, perché qualcuno lo dice, Ferrara l'aveva detto, Berlusconi troverà posto nel prossimo Parlamento tra Camera e Senato? Faccio una sua previsione. Certo che Berlusconi si candiderà. Sicuro, sicuro, sicuro. Sì. Al Senato lo vede bene con lei, magari? Ma ho letto sui giornali questa cosa, non lo so, potrebbe anche candidarsi. Ma anche senatore a vita lo vedrebbe bene, perché non fa una nomina di destra? Il senatore a vita è nominato dal Presidente della Repubblica. Io, siccome sono un po' contrario a questa figura del senatore a vita, che ritengo assolutamente superata, non sono tra quelli che fa queste proposte. Berlusconi avrebbe curriculum sicuramente adatto per fare il senatore a vita. Io sono più per l'abolizione delle figure dei senatori a vita che non per la loro molti. In questo sono d'accordo con lei. Berlusconi sarà eletto come candidato. In un sondaggio di TGCOM 24 comunque la Meloni è in testa tra i candidati. Dunque lei tra Meloni e Gaspari preferisce Gaspari, mi sembra. Allora chiariamo le cose. Io sono oltre che Giorgia Meloni e l'ho sostenuta e la sostengo nel suo percorso. Però tra Alfano e la Meloni sostiene eletta a capo dei giovani della loro alleanza nazionale, la candidata che io sostenevo contro candidati sostenuti da altri. In questa fase discuteremo tutti insieme. Io ritengo che Alfano, che ha avuto questo gesto di coraggio di porre il problema di un rinnovamento, di un salto generazionale, meriti il sostegno di tutti noi. Però lo sa chi si vuole, sa chi si vuole candidare? Ma non lo so, guarda. Si tenga forte, si tenga fortissimo. No, ma tanto è folklore, guardi. La Biancofiore, caro Gasparri, la Biancofiore. Allora, alle primarie, anche nella sinistra, no? Ci sono sempre stati candidati, Prodi, Veltroni, adesso ci sono Renzi e Bersani. E poi ci sono Scalfarotto, ci sono Adinolfi. Quindi le primarie sono anche un'occasione in cui alcuni si mettono in lizza, però poi alla fine contano quelli che hanno un ruolo, quindi francamente non mi trascinerà in una polemica sterile. Ma la Biancofiore con l'esternazione di questi giorni come la definisce? Diamo una definizione. Io credo che si debba votare un candidato che la gente può. Ma è politica Biancofiore secondo lei oppure è roba un po' da manicomio? Secondo lei? Di altre cose, francamente. È quindi politica oppure una roba che dovrebbe. Non glielo so dire, non mi sono mai posto questo problema. Ma come no? Io credo che Alfano debba competere con Bersani. Io mi pongo il problema di una competizione del centrodestra con i candidati. Il resto non è rilevante, perché se le chiede un cittadino, Alfano, Bersani, Renzi, possono anche immaginarlo come presidente del Consiglio. Altri nomi non fanno venire in mente questa eventualità. Senta una cosa, ma lei pensa di avere più voti, per esempio, di Galan, che ha annunciato pure lui la candidatura? Io, guardi, non mi presento alle primarie perché sostengo Alfano. D'accordo. Se mi candidassi prenderei certamente più voti di molti altri candidati e meno di altri. Io so quello che ho fatto nella vita. Più di Galan sicuro, no? Più di Galan li prenderebbe, secondo me. Ma non c'ho questa. Ci sono alcuni che, sapendo di non poter vincere le primarie e di non avere la reputazione per essere presidenti del Consiglio, si gettano in questa mischia per un fatto di visibilità. Io non soffro di questa sindrome. È molto semplice la questione. Allora, torniamo subito. Di contorno che non corrono per vincere e servono, non contano nulla, per far sapere che si candida. Io non ho questo tipo di per ottenere magari un seggio, no? Magari per ottenere un seggio. Ma vede, le primarie non si possono usare come merce di scambio. Ma qualcuno le sta usando? Qualcuno le sta usando? Vedremo i presentatori. Candidati, non vorrei che qualcuno pensasse: mi candida alle primarie, prendo 10.000 voti e poi mi danno un seggio. Se uno si candida in alternativa, deve mettere in conto di non chiedere niente. Botte in Sicilia per le elezioni. Abbiamo combinato un casino, caro Parenzo. Abbiamo combinato un vero e proprio casino. Quel candidato, il signor Cagnotto dei Grillini, ridendo e scherzando, è esagerato. Il signor Cancelleri. Quello che dice Cancelleri, che. Non Cancellieri. No, non come ministro degli interni, per carità. Cancelleri, il quale dice che gli uomini sono buoni, no? Nel suo curriculum c'era scritto come frase indicativa della sua personalità. Gli uomini sono buoni, credono nella bontà degli uomini, però insomma ne ha dette di pesantucce ieri sera, che stanno facendo discutere moltissimo in Sicilia. Per esempio su Micciche. Ha detto che c'era qualcuno che gli portava la cocaina al ministero, non gli stringerebbe la mano, ma è una storia già smentita dallo stesso Micciche, non ha avuto conseguenze, credo sia anche falsa. Si aspettano anche conseguenze dopo una cosa di questo tipo, caro Cancelleri. Si aspetti una raccomandatina tra qualche mese, eh? Micciche ha fatto quello che ha fatto durante il suo mandato al ministero, si faceva portare le polverine, si faceva portare la coca, non gli stringerei la mano, non appunto, per quello che ha fatto nella sua vita. Poi anche su Crocetta ha detto che insomma i suoi compagni d'avventura hanno problemi con la mafia, dunque lui non dà garanzie da questo punto di vista. Musumeci gli ricorda Mussolini, questa è una mezza stupidaggine, ricorda Mussolini semplicemente perché è stato del Movimento Sociale. Questo, questo ha detto Cancelleri, è il signor Cancelleri. È con noi il capogruppo al Senato del PDL Gasparri, che ha detto prima una cosa però interessante, Parenzo. Ha detto, cioè, ha detto, insomma, chi si candida non può sperare di avere una rendita dalla sua candidatura alle primarie. E se perde, non si deve ritirare. Che vuol dire? Cioè, non si deve candidare al Parlamento, secondo lei? No, si può candidare, non deve, insomma, cercare di usare questo momento, questa vetrina, per una sorta di... Beh, si ritiri, lei ha detto si ritiri, lei ha detto si ritiri. Mi scusi, uno si presenta se ritiene che gli italiani lo possono immaginare potenziale presidente del Vabbè, quello là però... Poi il PDL ha una classe dirigente ampia, anche giovane, lei ha citato la Meloni, ma Berlusconi dovrebbe ricordarsi che lui ha portato al governo Carfagna, Meloni, Gelmini, Alfano, allora? Titto, Prestigiacomo. Abbiamo molte persone tra i 30 e i 40 anni, validissime, bisogna che continuino a crescere e che siano, insieme ad Alfano, la garanzia di una proiezione futura del centrodestra. Sì, d'accordo, e questo l'abbiamo capito. Però Gaspari, lei ha detto si ritiri. Chi si presenti si ritiri, chi si presenta e poi perde si deve ritirare. Che vuol dire? Che non si deve presentare. Anche la Santanchè è una candidatura folcloristica? Diciamo che non è una persona che secondo me potrà vincere le primarie e che possa essere un candidato alla presidenza del Consiglio. Si è già candidata alla presidenza del Consiglio. Sì, con Storace, sì. E non ha avuto grande successo. Il suo simbolo è la mela. Il Parlamento, quindi è una riproposizione. Folclore anche quello. No, dico che è stata una che si è già candidata con un risultato, se lo ricorderà, cos'era, il 3%. Sì, quindi, non hanno preso il quorum, dunque. E quindi, insomma, dice che sono stati i risultati. Non credo che dunque non dovrebbe candidarsi, secondo lei? Cioè, c'è troppa secondo gente. Secondo me, la percezione degli italiani non è una persona tra quelle 3-4 che si possono contendere la guida. Cioè, del non bisogna italiano. Porre un limite in qualche modo, cioè, altrimenti diventa un sì, circo Barnum. Un numero di firme, però sa, tenga conto che anche i criteri di ammissione... potranno essere superati anche da persone che avranno risultati esiguo. Lei vedrà che molti di quelli che si candideranno prenderanno 1, 2, 3%, ma accade così anche a sinistra. L'importante è concentrare l'attenzione sui candidati importanti. Senta, ma... Io mi auguro anzi per la credibilità delle primarie che si proponga qualche candidato, anche non del PDL, che possa essere realmente competitivo. Questo favorirà, cioè, la Santanchè non è competitiva. Guarda che i suoi voti ce li ha la Santanchè. Lei dice di no. Potrei candidarmi io. Ma io vedo i precedenti che ci sono stati, poi vedremo. A pochi voti, dice lei. Pochi voti. Però io credo che ci vorrebbe un antagonista per Alfano, come c'è per Bersani. Giannino, che ne so, Giannino potrebbe partecipare. Che possa poi mobilitare l'elettorato a favore di Alfano. Giannino potrebbe partecipare, secondo me. Giannino potrebbe partecipare, non so quanti voti prenderebbe, sinceramente. Anche lì poi. Ma i voti non è che ce l'ha solo lei, Gaspari, i voti. Qualcun altro ce l'avrà. No, io sto dicendo che ce li ha Alfano, io e tanti altri possiamo avere, ma io pur avendo teoricamente del consenso non mi candido alle primarie perché non ho la smania dell'esibizionismo che mi sembra alcuni... Chi ce l'ha? La Santanchè ha la smania dell'esibizionismo? No, in tutti i partiti quando sono le primarie alcuni... Vabbè, diciamo il PDL, chi ce l'ha la smania dell'esibizionismo? La Santanchè ce l'ha? Guardi, non mi farà abbinare questa qualifica. Tutti quelli che prenderanno meno del 10%, a conti fatti, potremmo dire a primaria concluse lo hanno fatto per esibizionismo. Poi casomai ci sorprendono e prendono il 30%. Vabbè, ma anche se uno si vuole candidare e prendere il 2% non c'è niente di strano. Non c'è dubbio, la democrazia è fatta pure di quelli che fanno da voto e da folklore. Ma secondo lei la politica e il folklore. Quanti voti ha? C'era anche i partiti, si ricorda anni fa il partito umanista? Ma come che si presentò in tutta Italia. Anche Stefania Craxi adesso si presenta, pare. Anche Stefania Craxi si vuole presentare alle vostre primarie. Ma Stefania Craxi, se non altro, anche se non ha molti voti, rappresenta una tradizione politica laico-socialista. Quindi può avere un numero di voti limitato, ma alle spalle una storia in nome della quale si propone... Beh, anche la Santanchè ha una sua storia personale, o no? Ma la Craxi rappresenta un partito della comunità, lasci perdere. La Santanchè chi rappresenta? Non c'è da fare paragone. Francamente, io credo che la politica debba guardare a un confronto serio in Italia. I soggetti che si devono confrontare devono avere la credibilità per poter insomma vincere. Ma una sfida. Le Amazzoni esistono, le Amazzoni del PDL? L'ho letto sui giornali. Ma anche qui siamo nel folklore della politica. Noi abbiamo costruito un grande partito importante, che c'è nuove generazioni, uomini, donne, ragazze, ragazzi. Non si può ridurre tutto a dire riportiamo le lancette a 20 anni fa, oppure le Amazzoni, cose che leggo sui giornali, divertito sinceramente, ma poi dopo alla fine sono tutte cose. Vede, il dibattito sulle primarie con Alfano e la scelta coraggiosa di Berlusconi ha cancellato tutta questa roba. Dice lei, ha cancellato un confronto politico serio. Ha cancellato tutto, gli Amazzoni. Diciamo, ripropone le questioni questioni fondamentali. Ecco, a proposito di questioni fondamentali, lei porterebbe sua figlia ad Arcole, perché la signora Rubi oggi ha detto che la figlia ad Arcole non la porterebbe. Guardi, perché c'erano balletti hard. Io ho frequentato tante volte Silvio Berlusconi, sono stato anche nel passato. Ma sua figlia la porterebbe ad Arcole? Con la mia famiglia, e ho avuto un'ospitalità signorile, amichevole, anche con mia moglie e con mia figlia. Quindi quando ho incontrato Berlusconi non posso che dir bene di lui, della sua ospitalità e della sua No, ma certo, ma passare una di queste sere ce la manderebbe o no sua figlia? Passare? Una di queste serate con delle cose. Invitasse me o no, mia lei la inviterebbe sicuramente per accoglierla come si accoglie una persona amica. No, ma lo so, ma non è quello, non sto parlando di questo. A certe serate Berlusconi è un privilegio, non è una sventura. Senta, lo sa che c'è l'anniversario della marcia su Roma? Sì, certo che lo so, perché ho studiato a scuola. No, so anche che il 4 luglio c'è l'indipendenza. No, il novantesimo il novantesimo, cioè, pare che ci sia un po' di gente che si riunisce là a Perugia, là a fare una specie di... Guardi, non credo che si debba dar luogo a manifestazioni politico-nostalgiche, poi se nelle università, nelle librerie studiano, discutono, parlano, guardi, anche oggi passando in una libreria ho visto che c'erano esposti diversi libri di storici e di scrittori, perché il tema ritornerà. So che Bruno Vespa fa una puntata, il mio amico Giampaolo Panza, che ho visto giorni fa, è uscito un suo libro molto bello nei giorni scorsi, è stato invitato da Vespa a una serata che non so se va su questo argomento, dice lei, su Rai 1 di Porta a Porta, che parla della marcia su Roma. Come si può parlare della rivoluzione di ottobre? Certo. Come si può parlare... diciamolo chiaramente, Gaspari, fu un momento tragico per il paese. Quello, la marcia su Roma. Della democrazia è la marcia su Roma, dico, tutti i paesi. La marcia su Roma. Quindi cancellare la democrazia è una tragedia per ogni paese, lo è stato anche per l'Italia. No, fu l'inizio di un periodo di barbarie, lei lo può dire chiaramente. Fu l'inizio di una dittatura che ha conosciuto anche momenti di barbarie, ma che non è stata sempre una barbarie, ma è stata certamente una negazione della libertà e della democrazia, e quindi in questi termini va condannata quella fase storica. Poi, se vuole, facciamo un dibattito. No, per carità, no. Di stampo De Feliciano, De Felice ha analizzato le tante cose negative del fascismo. Adesso non ci mettiamo a discutere di De Felice. Se vuole, facciamo un confronto. No, per carità, io per non carità. Ripropongo il fascismo, ma credo che Renzo De Felice ed altri storici. Però abbiano fatto le voglio fare una domanda molto, molto precisa. Lei si immagina fuori dal Parlamento nel 2013? Cioè, si immagina? No, non credo che sarò fuori dal Parlamento, prima o poi sarò fuori dal Parlamento. E non no, adesso nel 2013 non se lo immagina fuori dal Parlamento. No, non lo immagino. Non... Prima o poi accadrà, ma veda, io faccio l'età di 14 anni, l'ho sempre fatta e la faccio con passione e con senso. Credo che serva gente che faccia politica e soprattutto con onestà. Sì. In questi tempi, ma come... il problema è soprattutto... Parenzo, che vuoi dire? Parenzo. No, voglio chiedere a Gaspari due cose. La prima è se stasera guarderà Santoro... Se accanto... No, un'altra cosa è quella. Stasera ho una cena con amici, quindi non guarderò Santoro, che guardo poco, ma soprattutto avendo una cena in casa di amici. C'è Fini, C'è Fini. C'è Fini, per quello, appunto. C'è Fini, c'è Fini da Santoro, ci sarà questa intervista a Rubi. Sicuro, ho frequentato Fini per tanti decenni, che non c'è problema di vedere Fini da Santoro. Se voi lo volete vedere, vedete. No, io stasera incontrerò degli amici e credo che la cosa sia molto più... E poi domani vado in Sicilia. Guardi, domani vado alla presentazione, anzi, di un libro. Ti invito alla Camera alle 11:30. Si presenta il libro di Nicolò Amato, che dice molte verità sulla cancellazione del 41 bis. A proposito, Ingroia dice che in Guatemala avrà le mani più libere. Ma perché non ha parlato in Italia? Uno che fa il pubblico ministero deve parlare nelle aule di giustizia, elevando ma che scappa? Che come scappa? Scappa? È come se lui fosse un giornalista. È un giornalista, no? Ma sta scappando, secondo lei? Sta scappando? Quando no? No, credo che sta facendo una scelta che lo prepari a una candidatura politica, secondo me. Poi stavo dicendo, domani, se vuole, vado in Sicilia, come ho fatto in tutte queste settimane, a fare incontri elettorali, e molti che fanno politica non ci vanno. La politica è fare anche i comizi tra la gente, come faccio tutte le settimane. Ma perché non fate regole più aperte di quelle del PD, così li fregate mediaticamente? Dovreste fare così, regole un po' più aperte. Ma io credo che si debba essere aperti, ma tanto la gente selezionerà i candidati. No, ma dico, fate delle regole un po' più aperte agli amici al bar, no? Ci sono quelli che si cambia. Le faccio un esempio, Cruciani. Guardi, in qualsiasi città le elezioni del sindaco troverà sempre, oramai, due o tre candidati veri, quelli che si e vabbè, poi una serie di candidati. E poi ce ne stanno 7-8 di candidati a sindaco che lo fanno, che così per un mese hanno la foto sul giornale, l'invito alla televisione, gli amici ti chiamano. Cioè la Santanchè lei dice lo fa per questo, per esempio. No, non l'ho detto. Ma come no, lo sta dicendo. Ti dico che nelle elezioni a sindaco. Ma è una quella della Santanchè è una candidatura seria o no? Ma lei c'ha un'ossessione. E beh, ma certo. Si intossica, amico mio. In politica ci sono Alfano, Bersani, ma ce l'ha, ma... Vendola, Casini, si deve disintossicare. Se lei ha una intossicazione per il gossip. Ma che gossip? Ma quale gossip? Ti lanci sull'informazione e tralasci lo squittio. Lo squittio, gli squitt, quella era un'altra cosa, lo squittio. Ma lei, che ha grandi potenziali, l'ho vista fare in televisione cose sulla storia. Sì, sì, sì. Lei è sprecato nel gossip, Bruciani. Ma non è gossip questo, che è la politica di tutti i giorni, che è fatta anche di amicizia, di inimicizia, di... Occuparsi di giornalismo, lei è un bravo giornalista. Dell'Utri, Dell'Utri. Lo vede ancora in Parlamento nel 2013 oppure credo di no. No, non lo vedo. Secondo me l'impostazione che deve dare Alfano è un forte rinnovamento. Dunque fuori anche Dell'Utri, fuori anche Dell'Utri. Su questo versante. Quindi io credo che alcune persone dovrebbero loro stessi fare una valutazione di opportunità e mi auguro che la faranno. Grazie, buona serata. Saluti. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo Elo, voi rispondete Im. Elo? Im! Elo! Im! Mai al mondo verrà la fine, come sempre. Cantate con noi! Di? Vino! Di? Vino! Me lo dice chi lo sa già. Guarda! Mai dire mai, mai dire mai! Mai dire mai! Mai dire mai! Però qui siamo a livello, della Madonna di Fatima portata in processione al Parlamento Europeo, siamo a livello della Madonna di Fatima portata in processione al Parlamento Europeo. Io ti dico questo. Le persone che in questo momento sono bloccate nel traffico e improvvisamente ascoltano la televisione e sentono questo signore di vino, di vino. Ma questi va veramente come minimo decidono di farla finita. Ma come minimo stragi nelle strade ci saranno. I pipponi politici pure, anche con i pipponi politici si rischia di sbandare. No, con i pipponi politici, ma con questo qui la gente veramente si. Adesso vedrai che il bollettino ci sarà. Andrea da Como, fra poco un grande ospite. Andrea da Como, buonasera. Sì, buonasera, Cruciani. Vada. Vado in fretta, vi tiro io un pippone sulla storia dell'Europa adesso. No, non vogliamo pipponi. Non alzerò troppo. Però la questione è questa, che nel 55... No, nel 55 no, nel 55 no. No, vado veloce, Cruciani. Nel 55, quando bisognava scegliere il logo della bandiera europea, venne scelto quello di un disegnatore francese che scelse proprio la corona di stelle... della Madonna. Ma chi se ne frega? Andrea, chi se ne frega? Qui qualcuno ha portato la Madonna, di Fatima, la statua, non so dove l'hanno recuperata poi, quella originale di non so cosa, per cercare di salvare l'Europa, al Parlamento Europeo. C'è pure qualcuno che ha firmato, che a un certo punto hanno preso io qua davanti un foglio di carta, gli hanno presentato questo foglio di carta dove c'è scritto la Madonna di Fatima a salvare l'Europa. E uno ha pensato, perché non firmo? Un parlamentare europeo ha firmato un documento. Ma l'Europa origine lì, ma che anche voi, Parenzo, aiutami, ti prego, Parenzo, no, aiutami, guarda, ti prego. Guarda, è una cosa di un'offesa. Cioè, i cattolici europei, ma in particolare gli italiani, dovrebbero ribellarsi. Cioè, i leghisti hanno sequestrato la Madonna, perché di questo si tratta. Hanno fatto un sequestro. Adesso tu, come al solito, stai esagerando. No, questo è molto serio. Però andiamo a sentire Antonio dalla provincia di Avellino. Antonio dalla provincia di Avellino. Sequestrato una di Antonio, dica. Ariano Ispino, non alla provincia di Avellino. E vabbè, dov'è? Passiamo con Benevento fra poco, per fortuna. Allora? Allora, a proposito della Madonna di Fatima, al di là della manifestazione floristica al Parlamento Europeo, quella della consacrazione dell'Europa e della Russia al cuore di Maria è un qualcosa che è stato rivelato a Suor Lucia a Fatima nel 17. Ma nessuno lo mette in dubbio, nessuno mette in dubbio. Sono stati degli eventi profetici. Sì, ma quindi... come? Ma scusi un attimo, caro Antonio, ma va benissimo, lei può credere a queste cose e nessuno contesta. Ma lei pensa davvero che la statua della Madonna di Fatima portata al Parlamento Europeo e poi successivamente un intervento del Papa possa salvare l'Europa? Antonio! Antonio! Assolutamente no, sono d'accordo con lei. Il problema non è portare una statua. Il problema è centrare l'idea di Europa sui fondamenti. Ma non me ne frega nulla di queste cose a me, caro Antonio. Il problema è questo: qui ci sono due signori della Lega, due rispettabilissimi signori della Lega. Uno si chiama Lorenzo Fontana, un altro si chiama Mario Borghezio. Due signori della Lega che hanno pensato a un certo punto di prendere una statua, la statua della Madonna di Fatima, di farla portare al Parlamento Europeo e di scrivere un documento in cui con la statua della Madonna di Fatima, secondo loro, si salva l'Europa. Ma di cosa parliamo, Parenzo? Aiutami tu, ti prego. Aiutami, perché io sembra che sono blasfemo, ma non voglio essere blasfemo, perché io rispetto le persone che credono nella Madonna di Fatima. Io invece, a differenza tua, siccome magari c'è qualcuno che davvero crede, io per questi porto rispetto che la Madonna di Fatima abbia queste capacità taumaturgiche. Sì. La cosa che mi spaventa è che un partito politico prenda la Madonna, va lì, la prende, la porta, la perde, perché più quella è stata pure persa all'aeroporto di Amsterdam. Questo è bello, capito? L'hanno persa all'aeroporto di Amsterdam, la statua della Madonna di Fatima. Questo vuol dire che lei stessa non voleva andarci con i leghisti, cioè, si è reso conto che quei leghisti non voleva andare, mi pare evidente, no? E con noi Claudio Amendola, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come sta? Come sta? Io per Amendola proprio a voi. Non ti avevo avvertito, Parenzo, non ti avevo avvertito. Io lo seguo sin dal primo vacanze di Natale. Ma dove? Ma lo segui dove? Ma stai dicendo le solite boiate. Guarda di sì, bravo, guardati un po' dietro. Stai un po'. Sul primo vacanze di Natale, strepitoso. Sì. Ma adesso magari lui non lo vuole ricordare, vacanze di Natale. L'unico che ha fatto, tra l'altro. L'unico. No, vogliamo dire l'unico, però. Diciamolo, l'unico, perché adesso non è che rinneghi quello che hai fatto, Claudio. No, l'unico, non che ho fatto io, l'unico vero vacanze di Natale. Cioè, l'unico vero, dici tu. L'unico vero, dopo tutta Monnezza, che è? No. Ma no, però è venuto dopo, insomma. Che vuol dire, Parenzo, che volevi dire? Avanti. No, di la solita cosa tua che liscia il pelo a tutti gli ospiti per poi dare la zaccagnata dopo. È anche una persona di sinistra, quindi è molto simpatico. E beh, che c'entra che è di sinistra? Non è che tutti quelli di sinistra sono simpatici. Sì, ma beh, bisogna anche dirlo. Però poi bisogna dire che in quel film lì, che era un trattato di sociologia pure, era figlio di macellai meraviglioso, di macellai di Viale Marconi a Roma, una cosa strepitosa. Senta, ma secondo lei quelli di sinistra, Amendola, sono più intelligenti, cioè sono un po' più acculturati, cioè hanno più sensibilità di quelli di destra? Cioè... Ma guarda, la verità è che ho sempre pensato che fosse così, invece poi mi sa di no, senso insomma che un po' meno di quello che si è sempre sperato, ci siamo sempre un po' detti, no? O no? Beh, no, per me non è vero nemmeno la premessa, cioè non è vero, però non è vero punto, nel senso che ci sono quelli ignoranti di sinistra, di destra, sullo stesso, però anche tu hai sempre avuto da questo punto di vista un po' la puzza sotto il naso, cioè noi di sinistra siamo un po' superiori, no? È vero o no? Ma questo ci è stato sempre un po' inculcato, no? Ci siamo sempre, è un'abitudine, voglio dire, di tutti i cinquantenni di oggi che sono stati giovani di sinistra, ci si sentiva così, autopompandosi. La vita ci ha fatto... Ma poi ci ha aperto gli occhi, vogliamo dire così. Ma sei contento che Berlusconi ha deciso finalmente, poi non si sa mai, Ma guarda, voglio dire, se fossi contento sarei ancora rimasto ai vecchi stereotipi. Non sono né contento né incazzato, nel senso te ne frega che niente. Un signore di 76 anni con la vita che ha fatto e con i cavoli che ancora c'ha da gestire, probabilmente no? Fa un'uscita anche dignitosa, ma vogliamo dirlo o no, insomma? No, quello è dignitosa, adesso vedremo naturalmente. Dignitosa, io dico questi due giorni. Questa scelta, insomma, dici? Questi due giorni. Senti, ma secondo te Mediaset, senza Berlusconi candidato premier politico, sarà un po' più... si libererà di un peso? Cioè, ma è vero, dunque, sarà un po', cioè, sarà forse un po' più, non dico libera, sarebbe un discorso lungo, ma però che Mediaset su determinate cose è comunque sempre stata abbastanza libera, insomma. Tu una volta hai detto che l'80% delle persone che ci lavorano non ha mai votato per Berlusconi. Che hai fatto una statistica, insomma, è abbastanza vero, senza dover andare a fare, però se uno fa mente locale, insomma. No, ma è vero, anche secondo me è vero, anche secondo me è vero. Ma questo non vuol dire comunque che sicuramente in questi ultimi due o tre anni è un po' risentito. Ma anche quello che hai fatto tu? Sì, anche quello che ho fatto io, anche se poi ho scoperto l'altra sera da Striscia la Notizia, mi fa sorridere, non lo dico con nessun tipo di emozione, sì, se non quella del divertimento, che c'è un jingle nei Cesaroni, specialmente nei momenti tragici, ah, è vero, sì, di amore, di affetto, di cose così, che è esattamente le note di Meno Male Che Silvio C'è. Ma è vero, lo sapevi? Una cosa che io non avevo notato, poi risentendolo è assolutamente proprio subliminale, perfetto. Pubblicità è una subliminale. Cosa subliminale, geniale. Ma l'hai fatto togliere? Ma figurati se io... Non hai il potere di farlo togliere? A parte che non ho il potere, ma poi... Non... Ma è una brutta cosa secondo te? Visto che non me ne ero accorto, no. Ma infatti anche secondo me bisogna andarla a sentire bene per accorgersene. Sì, no, no, io me ne sono accorto perché comunque l'hanno fatto notare, però non è peggio di un altro product placement, insomma. Ma scusa, secondo te allora cosa sono le cose brutte di questi due anni, cioè nel tuo lavoro anche, no, che hai incontrato su influenza della politica, eccetera eccetera? No, guarda, io veramente sinceramente non, in prima persona non ho mai vissuto, sì, queste situazioni di imposizioni di, sì, di, ma sì, né in Rai né in vabbè, fai anche un lavoro di un certo tipo, per cui non è che lavori nell'informazione. Non è che ho un potere decisionale, ma fai l'artista e non in prodotti, diciamo, di informazione pura, per cui è anche più complicato. Mi sembra, però tu dici senza Berlusconi candidato premier sicuramente ci sarà rispetto al pubblico. Cioè io conosco tanta gente che per partito preso non vede Mediaset o comunque non compra prodotti nelle varie grandi, cioè potrebbe aumentare addirittura gli ascolti comunque con l'uscita di scena di Berlusconi. Ma non lo so, ma non mi sembra la cosa più interessante. Ma lui voterà le primarie o no, c'era Amendola? Amendola va alle primarie del Partito Democratico? Guarda, io stessa domanda, vedi che hai detto del Partito Democratico? Vabbè, non solo del Partito Democratico, no, in realtà, della coalizione. Cioè, allora, sono primarie di coalizione, oggi sembra c'è Bendola, per cui sì. No, è notizia di oggi pomeriggio, no? Che insomma la richiesta di condanna a 20 mesi, sì, lui ha detto che lascia in caso di condanna. Caso di condanna, eh? In caso di condanna ci mancherebbe, lascia. Perciò sarebbero a quel punto. Beh, no, c'è Tabacci. Comunque, ho capito, c'è Tabacci e c'è anche l'altra candidata oscurata. La Puppato, sì. La più oscurata degli ultimi vent'anni. Perché ancora non ha raggiunto la cosa delle firme, credo. Ma io infatti, voglio capire da te: vai o non vai? Al di là della questione coalizione, non coalizione. Ma penso di no. Ah, non vai, eh? No, penso perché? Di no. Ma perché in questo momento faccio fatica a sentirmi rappresentato e faccio fatica a sentirmi un elettore del centro-sinistra. Ma non c'è un politico che ti rappresenta di più? Vendola non ti rappresenta, per esempio, no? Meno di quello che ho sperato. Renzi? Renzi? Renzi, no, tanto meno. Renzi, tanto meno. Insomma, voglio dire, ma perché non diciamo la verità su questa cosa? Qui crolla il castello molto fragile del PD, che è un partito costituito da due anime troppo storicamente diverse. Cioè quella democristiana, tu dici, quella democristiana, quella di sinistra, della parte più a sinistra della Democrazia Cristiana, e quella dell'ex PC. E allora voglio dire, quanti anni ancora dovremo andare poi, siccome gli elettori quelli... Cioè non credi in questo PD e dunque non vai a votare alle primarie. Ma non credo in PD da quando è nato, voglio dire, non ci posso credere, tutti i grandi scogli del PD sono poi stati quelli della contrapposizione con le coppie di fatto. Certo. Senti Claudio, abbiamo la pubblicità, ma cos'è che non ti piace di Renzi proprio? Qualcuno dice troppo uguale a Berlusconi in alcuni atteggiamenti, eccetera, eccetera. No, ma non è che non mi piace qualcosa in particolare, credo... Non è la sinistra, dici tu? Credo che non sia una persona di sinistra, io ancora penso che si possa presentarsi alle elezioni con una coalizione di sinistra, veramente di sinistra, per perderle magari, ma per essere riconosciuti. Meglio perdere di sinistra, ma vincere senza sapere quello che uno è. Senza poi, e poi con vincere cosa? Quali elezioni con quale legge elettorale? Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo Elo, voi rispondete vino. Vabbè. Elo. Parezzo, che hai? Un colpo apoplettico? Che ti è successo, David? No, ma mi... mi dispiace anche per lui che si rende ridicolo, capito? Vabbè, il meglio della giornata o il peggio della giornata, mentre siamo sempre collegati con Claudio Amendola, attore, il leader, dico così, il leader, il numero uno dei Cesaroni. E il meglio o il peggio? Ma non lo sa che tu sei della Lazio, sai? Ma come non lo sa? Lo sa, non lo sa, se non lo sa, chi se ne frega. So, ma anche quello è un argomento. E vabbè, ma ma tu con chi sei? Con Zeman o con De Rossi, Totti? Cioè, con io, sono, parte? Io sono sto con De Rossi. Cioè, quello vabbè, sei con la Roma, non essere banale adesso. Ma cioè, dai, insomma, non esiste questa storia. Cioè, esiste, dai, esiste questa diatriba, esiste questa ma differenza no, filosofica, diciamo. C'è una differenza di interpretazione del ruolo. E vabbè, bene. D'accordo. Però tu con chi stai? Sempre con l'allenatore oppure De Rossi è intoccabile? Deve giocare dove gli pare? No, non deve giocare dove gli pare, deve giocare come sa fare, dove Zeman pensa che lui debba giocare. Ma perché sei democristiano, sei peggio di un democristiano questa risposta. Ma non è vero, è la verità. Domenica ci ha giocato, ha fatto il fenomeno. E poi soprattutto, secondo me, i giocatori devono entrare in campo e giocare a pallone, come sanno fare. Ma tu hai più paura o più cioè Zeman ti mette paura o invece ti esalta? Perché sono no, due. Io mi sono fatto la maglietta della Roma, comprata la maglietta della Roma, ho scritto Zeman 4-3-3. Questo cioè, è il mio sei un fan assoluto, insomma. Sì, sono un fan assoluto da sempre e va bene così. Beh, certo, poi cioè, anche, cioè, se uno gli piacciono i Beatles, gli piacciono sempre, insomma. Poi, allora, il meglio o il peggio? Il meglio o il peggio viene da qui, signori, Ascoltate bene. La battuta del giorno è quella di Gianfranco Rotondi, ex ministro inutile all'attuazione del programma, che ha detto che Alfano è come Forlani con l'iPad. Cioè gli ha dato una sfiga pazzesca, Forlani è finito. Già vedo Alfano con la bavetta davanti a Di Pietro, a un nuovo Di Pietro. Beppe Grillo resta comunque, signori, un comico straordinario, non c'è niente da fare. Quando è sul palco resta comunque il numero uno. È allora sentiamo questa cosa qui. Ieri in Sicilia all'inizio del tour mi dicevano è la cosa più bella degli ultimi tre giorni che ho sentito. Via. C'è qualche cosa che sta cambiando, non è più come sei mesi fa a Palermo, dove mi guardavano, c'era tanta gente così venuta a vedere il comico. C'era un altro sguardo, erano con gli sguardi così, con le mani messe così, con dire ma che minchia sei venuto a fare, tanto qua non cambia una minchia. Numero uno, e poi su Obama, senti su Obama, pure su Obama non è male, guarda. Hanno già firmato davanti a me un notaio che in caso di elezioni invece di 20.000 euro al mese, ma porca 20.000, ma io non lo so che cazzo fate voi qua, 20.000 euro al mese, quando l'ha saputo Obama ha detto mollo tutto, Stati Uniti vaffanculo e vengo in Sicilia, ma che cazzo. questa è strepitosa, ha detto quando l'ha saputo Obama che guadagna molto meno, che cazzo faccio a fare le elezioni in America, vengo in Sicilia, sono eletto, mi piglio 20.000 euro al mese e via. Ma non ti piace Grillo, Claudio? Vabbè, da questo punto di vista sì, immagino. Da questo punto di vista è un genio, sta facendo comunque ribollire il paese e va bene. Però divento democristiano un'altra volta, però cioè devono prendere il 51%. È perché non si vogliono alleare con nessuno. Perché non voglio, cioè, come si fa? Fai conto, no, che quella sinistra che io spero si presenti alle elezioni, che possa andare da Sel, compreso Di Pietro, al PD. Tu sei un nostalgico della foto di Vasto, insomma. Sì, un po', ma sì, ma poi non mi fa dire cose che non sono neanche così vere, non è che devo. Vabbè, cioè, comunque ti piaceva quella cosa lì. Però mi piaceva quell'idea là. Se questi e quegli altri che il Movimento 5 Stelle riescono a ottenere una maggioranza, sarebbe un po' un'occasione sprecata non sposare determinati concetti che secondo me dovrebbero essere abbastanza simili. L'analista politico, guarda che Parenzo, guarda che Amendola è molto meglio dei tanti politici a fare le analisi, cioè, non è che no, ma sto sì, scherzando molto, sì, pure questo non è un vero gran complimento, questo pure, però infatti non te lo volevo fare in realtà. Senti, ma quella storia dello stronzo di La Russa com'è finita? Ma guarda, che ti diede dello stronzo, vabbè, non lo ricordiamo. Ai termini che usi, perché no, finirà, credo che finirà, o comunque c'è la prima tappa a novembre. Cioè, veramente l'hai portato in tribunale perché non ti ha chiesto scusa? Io l'ho portato in tribunale, sì. Ma quanto gli hai chiesto? Non ho chiesto nessuna cifra, ho chiesto al giudice di stabilire a suo giudizio una cifra da devolvere al bambino Gesù. Ma se no chiedi semplicemente come punizione che si tagli il pizzetto. No, vabbè, non è una grande punizione, secondo me. Però stronzo, scusa Claudio, però dire uno stronzo adesso, per carità, se ne dicono anche di peggio. Ammazza, è un amico mio, mi può dire quello che gli pare. Ah, tu dici stronzo, ho detto, ma però se te l'avessi detto... No, ma ripetuta 4-5 volte di seguito. No, noi l'abbiamo mandato in abbondanza. Ho ritenuto giusto, sinceramente, insomma. Lui non manca una telefonata, niente. No, nulla, mi ha chiesto lui delle scuse. Lui ha chiesto a te delle scuse perché lui aveva detto che tu animavi un gruppo di persone, esatto, nella protesta, esatto, eccetera. E non mi sembrava il caso, abbiamo ritenuto in maniera molto, come dire, serena e tranquilla di fargli decidere un altro. Senti, allora, con chi stai di più? Celentano che dice bravo Grillo, ormai non ti ferma più nessuno. Battiato, voterei Nichi Vendola. Gassman, voto Renzi, ma già abbiamo detto. E invece Verdone che ha detto ultimamente detesto il 70% dei politici, sono tutti scadenti. Con Verdone, mi sa. No, potrei stare con Verdone se mi dicesse qual è il 30%. Quindi. Cioè, no, ci sarà qualcuno che salvi, dai Claudio, su, adesso non fare come tutti quelli. Ah che... sì, vabbè, ma pochi, sicuramente sì. Non li conosco, ma penso di sì. Pensi di sì. Cioè, nel senso che sono fiducioso che ci sia. Ma no, ma non voglio neanche. Ma tu porteresti tua figlia, manderesti tua figlia ad Arcore? Oggi Rubi, in un'intervista che sarà mandata stasera da Santoro, dice: io, ma mia figlia. Rubi, addirittura, Rubi. Allora, domanda divertente: pensa se le cose mi potrebbero fare le mie figlie se gli dicessi che danno a Arcore? Sono loro che me menerebbero loro. Appunto. Vabbè, perché magari si possono possono passare anche serate divertenti. Ci andrei molto volentieri una sera ad Arcore a cena con Berlusconi, per il quale ho lavorato anni e che non conosco, in una cena non di quelle galanti. Come mai non t'ha mai? Lui invita spesso persone con cui ha lavorato. Io quando ho cominciato a lavorare con Mediaset, quando Berlusconi già se ne occupava meno, insomma, già era stato prepotentemente in politica. E quindi, però non ti nego che mi avrebbe divertito molto, insomma. Beh, certo. Sì. Sai che tua moglie cosa ci ha detto qui alla Zanzara una sera? Sì, no? Lo so, non capisco con chi. Come non capisco? Cioè nel senso che ha detto una stupidaggine. No, vabbè, volevo fare una battuta perché me l'aspettavo. Cioè, ogni tanto sì, con me in effetti è vero, però tutte due volte con chi? E tu dici che tre volte che ha detto, tre volte a settimana, vabbè, tre volte a settimana, però ha anche specificato quando ci vediamo per una settimana intera. Sì, esatto. Manco in quel caso. All'età adulta siamo a due volte al mese, dai, su, diciamo la verità, ma ti attacchi proprio. Ma non è che un vanto, voglio dire, è un piacere di piacere. Ma è normale, due volte al mese è normale, credo, cioè tra persone che si conoscono da anni. Ma non difendete tesi che non sono poi, voglio dire, la verità, dici. Confermi tre volte a settimana. Dunque, confermi, che cosa confermi? Tre volte a settimana oppure riduci un po' questa affermazione? No, confermo tre volte a settimana. Quando vi vedete? Ma perché non vedo proprio perché no. Vabbè, ho capito, ma... Viviamo insieme, dormiamo insieme, ci amiamo, ci piacciamo, capita che uno gli succeda, insomma. È strano sta cosa, però piacersi di l'uso di pillole. No, appunto, è strano dopo tutti questi anni ancora uno trova... Ecco, prova. Questo è vero, forse è un po' strano, però... A me non è mai successo. È una figata, dici? Sì. Provare attrazione fisica per la stessa persona dopo tanti anni. Cioè, da quanti anni che state insieme, scusa? 17. Dio, penso, 17 anni. Cazzo, 17. Mai tradita mezza volta? Mai tradita mezza volta. Mai a parte non ce lo direbbe, comunque, t'ammazzerebbe comunque. Penso di sì. Ammazzerebbe, non capisco. Con le mani proprio, te strozzerebbe così. Ma senti, ma Roma è secondo te è una città proprio amministrata male, schifosa, eccetera, eccetera, oppure qualcosa si salva? Di Alemanno, che salvi? Adesso fra poco si voterà. Una cosa, la salvi o no? Oppure fa proprio schifo? Ma guarda, lo sai che non te lo saprei molto dire, io non usufruisco molto la città, nel senso che non pio l'autobus, non vado per fortuna negli ospedali, insomma, grazie a Dio. Vabbè, l'impressione. Che però Roma c'ha una grandissima pecca ormai, che era invece quella del suo orgoglio, ed erano i romani. Oggi i romani non sono più orgogliosi di Roma. No, non devono essere orgogliosi di se stessi. Nel senso che siamo. Ma mica per colpa di Alemanno, però. Ma non è colpa di Alemanno, è colpa di una inciviltà dilagante in questo. I romani sono diventati incivili. Secondo me sì. Cioè, proprio a livello di sporcizia, di non rispetto degli spazi altrui, del modo in cui si guida, del modo in cui si lascia la macchina, del modo in cui comunque non c'è nessuna attenzione per la città che si ha. Quando vai a Milano è un'altra storia, diciamo la verità. Tu sei della mia... No, è uguale. Ma no, ma che uguale? Ma abbastanza mai? Uguale. Io abito da 13 anni a Milano da romano e ti assicuro che c'è una differenza abissale. Questo bisogna dirlo, non c'è niente da fare, bisogna dirlo. Ma non lo so, io ho visto tante doppie file pure a Milano e non... traffico uguale. Però a Roma c'è molta incertezza. Però a me a Roma proprio mi fa male perché a Roma fagli sentire la mendola cosa dice Borghezio di Roma. No, è Borghezio che c'è. Borghezio lo sa che dice di Roma. Però famoso il tipo. No, voglio farti ascoltare, Claudio, l'ultima perla qui da noi di Alemanno. Si è molto incazzato per questa cosa di Mario Borghezio su Roma. In realtà lui parla di Roma come città, sì, sporca, ma non è quello il punto. Secondo lui il punto è un altro, sentiamo. Ma no, schifosissima nel senso di un po' sporchettina, ecco, insomma, ecco. È una città multiraziale, una cosa che fa venire il vomito, ecco. Senza diciamo aderire a tesi razziste, però diciamo tutti questi immigrati, diciamo, pulizia non ne portano, ecco. Non vorrei essere accusato di xenofobia. E il bello Parenzo che non dice sempre essere accusato. No, dice delle cose terribili. Ma questo Claudio lo dice, tra l'altro. È come se io dicessi, Cruciani è veramente uno stronzo pezzo di merda, ma non vorrei essere accusato di dire male di Cruciani. Cioè, come è uno stronzo pezzo di merda. Va bene, Claudio Amendola è stato con noi, grazie, buona grazie serata. Voi, buona ciao, serata. Grazie, ciao, grazie. Ciao, saluta la mogliettina. Paolo da Roma, buonasera. Paolo, dica. Paolo, mi sente? Sì. Ecco, no, dico, premetto che fino adesso non sono stato alla radio, quindi l'argomento del giorno. Ma non c'è l'argomento del giorno qui. Paolo, lei non conosce la Zanzara, non mi faccia arrabbiare. L'argomento del giorno, odio la parola argomento del giorno. Io la vorrei cancellare. L'argomento del giorno. Oggi parliamo di. L'avete toccato oggi. Lei ha l'auricolare, però. No, io sono a casa con il cellulare. Viva voce. Aspetti un attimo. Io ormai ho l'orecchio fino, ho l'orecchio finissimo. Ha ragione lei, ho tolto il viva voce. Sento una cosa, io mi rifaccio al discorso, diciamo, della Madonna per il Parlamento. Fatima, mitica Madonna poverina, la statua della Madonna di Fatima, portata no, fino ma al Parlamento. Io vorrei andare un pochino oltre il fatto della Madonna come miracolo, no? Però io credo che non, cioè, prendere questa cosa come esempio, diciamo, per un messaggio cristiano, diciamo, che forse ci sarebbe un po' bisogno, quindi come simbolo, non perché faccia il miracolo, poi se lo fa. No, però Paolo, però lei sta virando il discorso sulla questione della credenza, del fatto di credere alla Madonna, va benissimo, lei può credere a quello che vuole, i valori cristiani, e la Madonna di Fatima, i miracoli, va bene tutto. Io mi faccio dei valori cristiani che valgono al di là della religione. Sì, vabbè, ma perché ci vuole raccontare questo? Il punto non è questo. Ma il punto è questo. Ma il punto non è questo. Qui ci sono due signori. Scusi, le descrivo la scena. Qui ci sono due signori, due parlamentari europei. Due signori, Mario Borghezio e Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana, tra l'altro, caro amico. Sabato, tra l'altro, per in onda. Allora, i quali, no, ma non lo sto insultando. Sto raccontando una cosa anche divertente. Allora, divertente per me, naturalmente. I quali si impegnano a portare, decidono nella loro vita a un certo punto, no? Attività politica, di portare una statua. Vanno là, prendono questa statua. Dunque, prendi la statua, la portano, vorrebbero portare al Parlamento europeo la statua della Madonna di Fatima per salvare l'Europa. Io dico solo questo e voglio chiudere qui. Io volevo andare oltre questo. Ma non voglio andare oltre, non c'è nulla. Potrebbe essere risibile. Io dico che in un mondo di popoli che per speculare finanziariamente... Ma chi se ne frega? Ma non mi interessa questo discorso, non mi interessa. Forse se ci fosse un richiamo a un minimo... Ma che richiamo? Ma lei sa che loro vogliono, che questi signori vogliono che Sua Santità Benedetto XVI, per adempiere al volere della regia del cielo... chiedono a Sua Santità Benedetto XVI di adempiere al volere della regia del cielo affinché tutti i problemi economici, politici, sociali e militari che sono di fronte a noi possano essere evitati, superati, risolti definitivamente. Ma lo sa con che cosa? Ma tu ti immagini, consacrando in maniera solenne e pubblica la Russia la Russia, secondo una credenza che di cui non voglio, che non voglio nemmeno indagare. Ma di cosa parliamo? Su! Ma tu ti immagini il Santo Padre? Il Santo Padre che legge la notizia, arriva il suo nunzio apostolico, qualcuno lì, ma sì, tutti i problemi che descrivi c'hai. Descrivi la scena, sì. No, mi immagino io la scena lì del Santo Padre che sta ragionando di catechismo e catechesi, a un certo punto qualcuno bussa a porta di Papa. Sì. Tutto, c'è grande silenzio, deve esserci, però Santo Padre entra timidissimo, uno dei suoi, no? Entra padre, sì, Georg, timidissimo, dice scusi Santo Padre, se l'ha visto, c'è qualcosa di urgente? E dice no, ma di urgente veramente no, Santo Padre, scusi se la disturbo, però ci sarebbe il signor Borghezio e il signor Fontana. E chi è questo Borghezio? Non capisco, sto studiando Vangelo. Vorrebbero, dice, che lei... scusi, vorrebbero che lei facesse una benedizione urbi e torbi per la Russia, il Santo Padre in un momento così dice oh caspita, l'unica parolaccia che ha detto tutta in vita sua, secondo me l'unica, oh caspita, mi pare una cosa veramente, rimane basito, fermo, immobile il Papa, immobile. Va chi bene. È signor Bosghezio? Chi è signor Paolo Bosghezio? Da Roma, chi era quello di prima, Paolo da Roma? Sì, Paolo da Torino, allora. Pronto? Vada. Pronto? Sì. Senta, volevo fare un'osservazione a proposito della Sant'Anché, che sì, sì, è sovente vostra ospite. Sì, ospite di tutti in realtà. Il però... ha detto che non si, il PDL non esiste più. Il giorno dopo si è candidata alle primarie del PDL. Non è contraddittorio a vostro avviso? Lei ha ragione, Paolo, ha perfettamente ragione. Posto che queste saranno le candidate le primarie del PDL, perché non si sa bene che primarie saranno, sì, di quale partito, però è vero che esistente il PDL, la Sant'Anché prima ha detto che è finito, è morto, eccetera, eccetera, e poi in realtà si è candidata alle primarie del PDL, no, no, che in realtà saranno primarie del centrodestra. Sì, sì, vabbè, certo. Roberto da Pordenone, buonasera. Sì, buonasera. La mia era più una riflessione, una domanda per voi, più che altro. Riflessione, sì. Vabbè, dobbiamo pure riflettere. Sì, sì, no, per carità, bisogna riflettere, ogni tanto bisogna riflettere, sì. Dunque? No, mi domandavo... Da quando Berlusconi non c'è più, diciamo, in carica, vengono fuori tutte le storie, la Mani Pulite 2, insomma. Cioè, non capisco perché, nel senso che lui ormai non ha più le redini del paese, quindi viene fuori tutto l'ambaradam. E la riflessione è quella, nel senso che fino a prima lui riusciva a tenere tutto nascosto, fatto, sì, insomma, le cose. Invece? E invece adesso no, non ci riesce più perché non lo ascoltano più, insomma. Cioè, lui si lamentava della magistratura, ad esempio, poi alla fine... si cominciano a fare il loro mestiere e viene fuori tutto quello che stiamo vedendo. Vabbè, Roberto, non ho capito niente. Comunque, pare che De Gregori abbia firmato il manifesto di Montezemolo, eh? Questo sì. Questo si dice. Amleto da Taranto, Amleto da Taranto. Ma come si fa a chiamare uno Amleto? Buonasera, dottor Cruciani. Il cantante De Gregori, sembra, non lo so, leggo da qualche parte. Sì. Dica. Allora, niente, io volevo... Questi signori che hanno firmato per portare la Madonna di Fatima, è una mia opinione, che la vogliono portare in Parlamento, ma portandola in Parlamento lì a Montecito Don Cazzalana Pursalo, ma la Madonna, anziché avere le mani per pregare, come la mandano via? Con le mani in tasca? O lo stanno facendo per uno scopo politico loro personale? Amleto, ci sentiamo domani 18:30. Ciao, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.